andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Chi è più nano di un signore che si chiama Poletti? Questa volta facciamo ascoltare l'audio originale, caro Parenzo, che sei molto in collegamento bene. Oggi. Collegamento speriamo non precario, ma basta che tu avvicini quella bocca e parli in maniera forte, perché i telefoni fissi. Stupendo, squilla. Il nano ministro Poletti, sentiamo la voce, perché una cosa è riportare le cose, no? Cioè una cosa è riportare le frasi, eccetera. Una cosa è sentire la voce di una puttanata. Di una puttanata che è stata detta e che viene confermata, questa puttanata. Poi c'è una cosa da aggiungere sul signor Poletti, ministro del lavoro. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. Allora, caro David, la frase è abbastanza chiara, no? Mi sembra, l'abbiamo parlato anche a lungo ieri, una puttanata molto chiara, pazzesca. Secondo me, con questo audio è definitivo, cioè un audio definitivo. Sono le 18:35. Oddio, adesso attacchi con questa storia. Io chiuderei qui. Ma perché? Ogni cosa che aggiunge sbagliata, aggiunge in più. Invece così è perfetto, perché hai fatto la lezione di Montanelli. Prima i fatti e poi i commenti. Ma non dire cazzate, dai. Abbiamo messo l'audio. No, ma c'è un'altra cosa qui. Fondamentale. Questa roba... la linea Marisoni, a Napoletano. Ma no, ma chi se ne frega? No, Napoletano non va mai in onda. No, perché non va? No, ma perché? Mi dispiace, male. Fate presto. No. Subito. No. Allora, ragazzi, subito. Il figlio di Poletti, questa è l'altra notizia, il figlio di Poletti, sì. Si chiama Manuel Poletti. Ah, ecco, che questo è importante. Signor Manuel Poletti, state attenti a questa roba qui, perché non è una roba così, cioè una piccola cosa, è importante, perché abbiamo sentito il ministro del lavoro dire che quelli che vanno all'estero possono anche rimanere lì, che non è una grande perdita, e che, insomma, alcuni di questi che lui conosce, che lui conoscerebbe, eccetera, eccetera. Il figlio si chiama Manuel Poletti, fa il giornalista, io manco lo conoscevo, non sapevo di questa storia che era stata tirata fuori mesi fa da alcuni giornali. Il figlio Manuel Poletti, Poletti Junior, dunque, cosa fa? Il giornalista, abbiamo detto, per la Lega delle Cooperative, vabbè, già su questo si può discutere, sulle orme del padre, non sulle rive del fiume come i nani, sulle orme del padre. Giusto. È presidente, direttore di alcuni giornali della Lega delle Cooperative. Chissà perché uno di questi giornali, almeno per adesso, uno di questi giornali, che si chiama Sette Sere Qui, Media Romagna Società Cooperativa, ha preso nel 2015 190.000 euro, 888,48 euro, 190.888,48 euro di finanziamento pubblico. Dunque, come si dice in romanesco, stanno a fa... Come si dice? Dillo tu, Parenzo, una volta ogni tanto. Dillo stanno tu. Stanno a fare i froci col culo degli altri, lo dico io. Fanno i froci col culo degli altri. Okay? È una sintesi, è un editoriale questo il suo, beh, praticamente. Torniamo alla vicenda di Berlino. Sì. Allora, C'è un tizio, una tizia, anzi, ma potrebbe essere chiunque, un qualsivoglia esponente, diciamo, della Lega Nord, il quale dice non ci sono ebrei o buddisti che fanno attentati. No, non ci sono ebrei o buddisti che fanno attentati. Cioè non c'è un ebreo che fa un attentato, non c'è un buddista che fa un attentato, c'è un islamico che sistematicamente fa gli attentati. La Santanchè vengono qui per sottometterci e comandare. Non vogliamo parlare di guerra di religione, non vogliamo parlare, perché non è chic, perché non è elegante, dire che questa gente viene qua per sottometterci, questa gente viene qua per comandare a casa nostra. Allora, è la solita discussione, bisogna dire una cosa, che al Vaticano hanno già deciso che la religione non c'entra nulla. Non so che se hai sentito uno di questi signori con le tuniche, no? Con le tonache. Beh, con le come si chiamano? Sì, con quei vestiti. Con quei vestiti terribili, con quelle robe lì lunghe. Quelle palandrane. Quelle palandrane. Sono palandrane pure quelle, perché bisogna dirlo solamente dei cosi. Solamente degli imam. Sono palandrane. Ho letto una ottima intervista a Monsignor Galantino, capo della CEI. Ecco, esatto. Che ha detto. Uno con una palandrana. Di assoluto buonsenso, mi pare. Cioè, che la religione non c'entra. Che la religione non c'entra. Vuole disinnescare gli odiatori, capito? Vuole disinnescare l'odio, gli odiatori. La Merkel, ad esempio, oggi, quando ancora c'era il sangue caldo della strage, no? Ha detto, sì, anche se fosse un rifugiato. Continueremo ad essere uniti, aperti, liberi. Allora è evidente, capite? Su questo potremmo discutere a lungo, ma io tengo fermo il faro della Angela Merkel, che ha appena subito una strage, e forse tra questi c'è come fa il Vaticano italiana di 31 anni. Come fa il Vaticano? Merkel... Sì, vabbè, come fa il Vaticano a dire che il problema è ancora, continueremo ad essere uniti, aperti, liberi. Continueremo, cioè lei dice, ad accogliere i rifugiati. Sì, ma non sei, allora, ma tu non sei un politico, non sei un politico, cioè non sei un politico. Cioè per te Feltri, che ha detto attacco a Natale, fuori dai coglioni, liberiamoci di questa gente, è una cosa razzista. Ma non frega niente, di questo. Ma fuori a calci scuola, se voglio dirlo, ma non frega niente, prendono i loro cammelli, vadano via, fuori ai coglioni, ma mi pare evidente. De Masi, il mitologico De Masi, è un sociologo, ragazzi, non vi spaventate, De Masi, molto bravo, De Masi. Devo dire, sono stupito dall'insistenza con cui la Chiesa di Roma dice che il problema religioso non c'entra per nulla. Ora, a me pare che tra un delitto sessuale, un delitto per rapina e un delitto di questo genere, in cui chi spara grida ad Allah, dice che lo ha fatto ad Allah, ed è stato fortemente condizionato da scuole coraniche e così di seguito, beh, non si può dire che sia la stessa cosa. C'ha ragione lui, dai, c'ha ragione lui. Detto in maniera diversa da quelli che abbiamo sentito prima, ma c'ha ragione lui, c'è poco da fare, cioè è così, cioè sfrutteranno la religione, come dici tu, però da quella parte, ma da quella parte viene, non è che viene da un'altra parte, cioè non è che dici in nome di Buddha sfasciano tutto, mettono le bombe, no non lo fanno. In nome di Cristo un po' meno lo hanno fatto, cioè, nel passato, un uso politico della religione, non c'è mai di dubbio. Comunque ragazzi, la cosa incredibile di oggi, purtroppo, e sono molto triste, è che Andrea Bocelli, che pensavo che non solo che sia naturalmente un grande bello, cantante, ma anche un po' diverso dagli altri, cioè uno che non è politicamente corretto. Recentemente, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto che lui è stato a lungo malato di sesso, che era un libertino sfrenato, cioè, cosa che me lo fa diventare molto più simpatico di quello che già rispetto a quello a come lo sento quotidianamente. Bocelli, beh, si è allineato, si è inginocchiato di fronte a questi quattro coglioni, di fronte a questi quattro imbecilli che promuovono una inutile campagna sul web per boicottare il concerto o i concerti di Trump per il suo insediamento il 20 gennaio. Sono quattro sfigati, boicott Bocelli, non so come l'hanno intitolata questa campagna. Sono quattro pezzenti che non hanno nulla da fare tutto il giorno e che non si arrendono a un'evidenza molto plastica. Prima hanno pensato di ricontare i voti, poi pensavano che i grandi elettori detronizzassero Trump. Siccome si devono arrendere ormai all'evidenza che Trump è il presidente degli Stati Uniti, magari farà un disastro, ma intanto gliel'ha messa in quel posto del presidente degli Stati Uniti, non si arrendono e cercano di boicottare il concerto. Purtroppo, devo dire la verità, Bocelli si è arreso di fronte a a questi presunti fan, i quali hanno detto no, non puoi andare dal porco, non puoi reso, avrà deciso lui, avrà deciso per opportunismo, purtroppo ha deciso per opportunismo, ci crede e non ci va, ma non è per quello, è amico di Trump, gli ha pure regalato un aereo per fare una tournée Trump, dai, un'ingratitudine pazzesca, veramente mi ha deluso, chi se ne frega, poi se ne fotterà giustamente, ma signor Bocelli anche ai soldi, pensa te, ma no, ma magari non sarebbe stato manco pagato, dai, su. Ah, a proposito, chiavegato sulla storia di Rosina. Beh, l'indipendentista veneto, no? Grande, grande protagonista. Ma proprio niente. Chiavegato dice: Parenzo e Cruciani, due pagliacci. Sinceramente non ho parole per descrivere la sensazione e il sentimento che provo per questi due, lasciatemeli chiamare, pagliacci. Pagliacci, per riassumere un po' quello che hanno fatto. E per riassumere soprattutto la violenza verbale che hanno avuto il coraggio di fare a questi due poveri anziani. Noi non abbiamo fatto nessuna violenza, la violenza l'avete fatta voi. Da dire, c'è da dire, questo chiavegatto che ci chiama pagliacci, io voglio ricordarlo chi è. Cioè, sì, oltre... Andate a vedere la faccia che ha più che altro. No, vabbè, adesso uno può avere anche i capelli unghi, lunghi, unti. No, ma non è quello che nel complesso. Vabbè, nel che complesso. Vuol dire? Adesso questa è una roba... cioè, caratteristiche somatiche, dai, che cazzo me ne frega? No, per carità, dai, per su, carità, ma chi se ne frega che sei mai, l'ombroso, no? Ma non è quello il punto. No, questo carità, qua era a un certo punto uno dei capi dei forconi. C'è già il fatto che uno dice era uno dei capi dei forconi, di un movimento chiamato Forconi. Vabbè, amico mio, ciao, arrivederci. Vai all'ambulanza, vai, fatti prendere da un tizio che ti porta da un infermiere e via. No, questo dice a noi che siamo due pagliacci. Questo perché? Perché avremmo usato violenza nei confronti di Rosina. Senti, caro Chiavegatto, tu non sei il portavoce di nessuno, chiaro? Quelli si difendono da soli, ci hanno chiesto, gli abbiamo chiesto scusa alla Rosina, abbiamo chiesto scusa sia a Rosina che al marito, non ci rompere i coglioni, non sei il portavoce di nessuno, anzi sei nessuno, questo è il punto, non sei l'autoproclamato portavoce dei signori, no, perché poi questo continua. Le scuse sono scuse che non sono volute, l'abbiamo capito che sono scuse che vi hanno obbligato a fare, sicuramente dal vostro editore, dal vostro padrone, che messo alle strette dalla sommossa popolare che è uscita da questa scandalosa trasmissione, avete dovuto fare. Vabbè, si vede che non hai capito un cazzo, Chiavegatto, non hai capito nulla, non mi è arrivata nessuna telefonata, zero, l'ho fatto di mia spontanea volontà, qui non c'è nessuno che chiama qualcuno per dire fate le scuse, non hai capito una ma poi quale sommossa popolare? Ma nella tua testa c'è una sommossa popolare, tu pensi che la sommossa popolare è portare quattro signori con le bandiere, quattro di numero, insieme alla Rosina sotto casa del marocchino, questa sarebbe la rivolta popolare, marocchino anch'io voglio in galera molto più di te, che sfrutti la situazione per nulla! Che sfrutti la situazione per nulla, per i tuoi fini da indipendentista veneto. Ma vai a fare in culo, va, Chiavegà. Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. Sono un genitore di un cervello in fuga, mio figlio è fuori dall'Italia da 10 anni e io, dico la verità, ho sempre sperato che un giorno tornasse. Da ieri, da quando ho sentito quello che ha detto il ministro del lavoro, mi auguro che mio figlio rimanga all'estero e continui a fare la bella vita che fa, tanto in Italia non avrebbe avuto il successo che c'ha all'estero. Al ministro Poletti, che non so nemmeno che faccia abbia, tutti i miei compagni di corso che a 26 anni sono rimasti a casa perché non potevano rinunciare al pranzo di mamma e ora pigliano 1200 euro al mese per fare gli impiegati e non arrivano a fare il pranzo con la cena, auguro un solenne vaffanculo, andatevene fuori, fatevi pagare, i sacrifici ci sono, ma che cazzo. Allora ragazzi, andiamo in provincia di Como. Ettore, vai, Ettore. Buonasera, dimmi. Cusani, dimmi, buonasera. Dimmi, vai, vai, vai, vai. Vado, posso andare? Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché è la prima volta che sento le frasi complete del ministro Poletti. Dopo per lei. Vabbè, sono tutti i siti online, non è che abbiamo fatto i fenomeni. No, Cruciani, è importante che una trasmissione diretta come la tua faccia quelle cose qua. Vabbè, poi vai. E devo dire semplicemente una cosa, che non vedo nulla di male. Cioè, ha detto semplicemente. No, però c'è una cosa da dire, Parenzo, che allora le critiche che ha ricevuto Poletti dalla stampa, dagli osservatori, eccetera, sono molte di più di quello che viene fuori invece dai commenti delle persone comuni che sto sentendo. Anche ieri sono arrivate un sacco di telefonate in cui si sostiene che in fondo Poletti non ha detto una boiata. Cioè, dicendo che quelli che vanno fuori non necessariamente sono i migliori e non tutti quelli che rimangono sono dei pirla, che è una di quelle cose che spesso si vuole far passare, no? Cioè, l'idea che chi va fuori è un fenomeno, un genio, incompreso in Italia. Ma anche fosse vero percentualmente, questo non lo sappiamo, non è che il ministro del lavoro non si capisce per quale motivo, cioè comunque è una sortita leggera, facile, ma una cosa che... Beh, no, facile, che cosa, che senso ha? Comunque, che vuoi dire, Ettore? Non ho capito. No, semplicemente questo, che dalle sue parole si evince semplicemente una riflessione che tutti noi stiamo facendo. Cioè, ovvero quale? Che chi va fuori non è migliore di chi rimane dentro, anzi... Sì, però questo qua, scusami, questo qua è una cosa che si è sempre saputo, non è che ci voleva Poletti per dirci. No, ma Cruciani, ti dico una cosa. Se io voglio aiutare una mia nazione, non vado all'estero a lavorare, rimango in Italia a lavorare. Vabbè, ma questa è una puttanata, dai. Ma questa è così, Cruciani. Ma eh? È una stronzata, Cruciani, io 54 chi vuole anni. Aiutare la nazione, Cruciani. Resta in Italia. Ma che è sta puttanata? Allora, scusa, tutti quelli che... sostiene il contrario. No, ma non è vero, questa è una stronzata. Non è vero. Allora, tutti quelli che vanno fuori e poi riportano i soldi... Dove li riportano i soldi? Beh, compreso Parenzo, come sai ma bene... Ma cosa sto dicendo, Parenzo? Fermo lì, compreso il signore che lavora a casa mia, caro Parenzo, no? Che adesso per esempio è andato a sposarsi, il mitico Summit. Ottimo, Summit finalmente si è liberato dal diavolo del padrone, benissimo. No, tutti contenti, Summit. È andato a sposarsi. Chissà quante porcherie ha visto in quella casa lurida nella quale stai. No. Farlo peraltro girare perché tutto il bagno sporco, perché l'urina che tu fai nella doccia, non è necessariamente così. Le lenzuola che non ti cambi mai. Quell'uomo, sì, quell'uomo ne ha viste di tutti i colori, è vero. Andrei vicino del Nobel per la pace, sì. Perché quell'uomo lì, quello che ha visto, io non l'ha visto neanche in un campo profughi della Grecia al primo sbarco, neanche lì. Ma non esagerare, adesso ha visto un po' di robe sporche, dai, calzini buttati per terra, la palma della Pulizia, ha visto un po' di... Il campo non sulla Togliatti a Roma è più pulito di casa tua, è del letto di casa tua. Ma no. E quel letto lì ha visto una quantità di porcherie, di gente che si affantellava sopra, evidentemente. Tutto c'entra. Ma scusa, c'entra. Non ho capito. Andrebbe risarcito. Quel povero uomo lì l'ha visto, ha detto, queste scidende, vado via. Cioè, dice, non è andato via, è andato a sposarsi là nello Sri Lanka, sì, di dov'è? Ma non tornerà più, non tornerà più. Ma no. Se questo è l'Occidente, avrà detto, Occidente, casa Cruciani, Occidente, meglio tornare a casa mia. Questo sicuramente, guarda, questo sicuramente. Tu potresti essere un ottimo spot, un deterrente per i flussi migratori, perché secondo me chi scappa, se vedesse un piccolo filmato di com'è casa tua, delle porcherie che avvengono, e tutte le persone affastellate sui letti, donne, uomini, porcherie, schifezze, e poi arrivano quegli altri, e i trans, e quell'altro, e il trans. Ma quali trans? Porcherie. Che cazzo dici? Solo porcherie. E uno è F-Ball, quella è... Ma che c'entra F-Ball, che non è mai venuto a casa mia, sei impazzito? La Lega dovrebbe fare una cosa sola, girare un piccolo spot casa tua di pochi minuti, proiettarlo lì in questi paesi, dico no, preferiamo qui la guerra, preferiamo la guerra piuttosto che il rischio di andare a lavorare nella casa di un signore che lavora alla radio degli industriali, che uno magari potrebbe dire, io fortunato sei fratello mio che lavori in un signor Cruciano, ma questo non sa un cazzo, visto... manco quello che faccio. Sì, telefono, dice, signor fortunato della famiglia, no, dal paese d'origine dello Sri Lanka, dice, fortunato fratello mio, lavori in casa Cruciano, che con Vindustria, imprenditore, dice, guarda fratello mio, torno a casa perché le porcherie che ho visto, gente che fa la pipì nel lavandino, lenzuola sporca per mesi, puzzo, gente che entra, accoppiati di uomo e donna, una cosa incredibile in quella casa, torno a questo residente. Non parlano così. Parla così sicuro e così è andata. Chiudiamola qui che è venuta bene. Grazie a tutti, ci rivediamo domani che alla fine no! È una giornata. Sì, e domani di che? Chiudiamola qui. Dai, no, ragazzi, comunque, chi è che stava parlando? Adesso mi sono preso troppo. Ettore, chi è? Ettore, che cazzo è Ettore? Voi due parlare. Sì, ma lo che vuoi? Lo che ha fatto il tuo collega Parenzo. No, voleva dire che io era partito, adesso mi sono ricordato. C'è questo tizio qua che adesso, come dice Parenzo, è scappato, ma in realtà non è scappato, è andato a sposarsi nello Sri Lanka. A te l'ho detto, porta delle rimesse scappare. Di quattrini, dunque aiuta scappando, andando a lavorare in questa roba fetida che è casa mia, venendo a lavorare, come dice Parenzo, porta poi i quattrini e tanto per lo Sri Lanka. Dunque è sbagliato quello che dice. Lascia anche dei soldi qui, perché avendolo tu credo messo in regola, posso fare una domanda a Parenzo? Ettore, dimmi. Eccoci qua, Ettore, buonasera. Se vogliamo fare il sillogismo fra di Cruciani e chi va all'estero a lavorare, secondo lei, Parenzo, chi va all'estero a lavorare rimette ogni mese i soldi che guadagna alla famiglia qui in Italia? Ma chi se ne frega? Uno può andare dove vuole, allora, non è che bisogna aiutare la patria rimanendo in Italia. Questa è una puttanata, dai, su. Basta, Angelo da Roma, mi hai rotto le scatole. Ettore, ma basta. Che stai dicendo? Ma basta, l'hai già detto, ok, abbiamo capito. Angelo da Roma, dai, forza. Sì, Angelo. Pronto? Dimmi. No, io chiamavo per un intervento che sono fatto ieri. Sono stato chiamato adesso, ieri. Vabbè, è uguale, dimmi il cazzo che ti pare. Perché, dai, su, mamma mia. No, ieri, no, oggi, non è importante, Angelo. No, dimmi. No, è perché approfitto che c'è pure il dottor Parenzo. Perché lui. Dottor Parenzo, lo manco il laureato, chiama il dottor Parenzo. Vabbè, comunque, vabbè, è uguale, va bene, dottore, uguale. Perché ha definito l'affermazione di un interlocutore prima di me a riguardo di marocchini, che ha orrore dei marocchini. Un luogo comune. Allora, tu invece che pensi? Ti fanno orrore pure a te i neri, i marocchini, eccetera? Non è che, da quello che sentiamo, è così. Cose, sei tu che lo senti? Cioè, ti fanno orrore, sì o no? È certo che è così. Ti fanno orrore? È certo. Ma cos'è che ti fa schifo? Perché io correggo quello che ha detto lui. Prima. Correggi? Ma non è che correggi? Vuol dire correggi? Di prima voleva dire tutti gli arabi, sono così. Tutti gli arabi? Cioè, non marocchini solamente. Tu stai dicendo che perché in fondo l'Islam è incompatibile con l'Islam... Tu vuoi dire, cerco di dare nobiltà a quello che dici perché non si è capito un cazzo, un minimo di nobiltà. Tu stai dicendo che sostanzialmente noi e l'Islam siamo incompatibili, giusto? Esattamente. Bene, arrivederci. Fermi tutti! No. Ci sentiamo tra un quarto d'ora. Giuseppe Cruciani, hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. La Zanzara. Beppi, non ci siamo, non ci siamo. Io già ti dissi all'epoca cosa dovevi fare, ma vedo che lui continua, usa la radio per i propri fini politici, interviene sta cazzo di maggioranza che lo esalta, lo eleva e lui parla e straparla, usa la radio per il suo programma. Sta lì seduto con i piedi sul tavolino, oppure sta nella spa, o chiama dal suo chalet in montagna, o dalla Toscana. E il sigaro, e il caminetto, e il suo sorrisetto sulla faccia non lo posso vedere. Io ogni qualvolta lo vedo, lo sento, faccio del training autogeno, Peppino. È insopportabile, è insopportabile. Quindi... sai già, Peppino, tu sai già. Bloccalo, eliminalo. Fammi sto favore. Ciao, ciao, ciao, ciao. Lo sai che per certi aspetti questo imitatore di De Luca è meglio di altri? È meglio bravo, anche. Bravo. Siamo a livello di Crozza. Siamo a livello di Crozza. Questo non credo, però. Non è difficile, devo dire, fare usare certe espressioni del governatore del mondo. Ho capito che ce l'avesse con me questo qui. Ma sì, vabbè, ma è un gioco, dai, su, è un gioco, dai. Sei scafato per queste cose, mica te la prenderai, questo dai. Questo mi diverte moltissimo, anzi, ma stiamo scherzando. Bene. Manuele da Roma, dai Manuele, ma perché vuoi finire? Stasera c'è la trasmissione, d'accordo, la lanceremo bene, stasera bravo, tutti quanti andate bravo, a vedere bravo, invece di altre trasmissioni bravo, alle 21:15 quello che è, bravo, 21, sulla 7 bravo, una trasmissione sì, che si chiamerà Terza Repubblica, se non sbaglio, bravo, se non ho capito male, molto condotto bene, dal signor capito, Parenzo e dal signor Telese, punto bene, e basta, va bene, bene. Adesso, anche twittare tranquillizzati con adesso Repubblica. Tranquillizzati adesso, dunque potete anche ogni tanto twittare hashtag Terza Repubblica Manuele da Roma, dai, sulla 7, ecco, magari lo possiamo anche ma ricordare, l'abbiamo detto Manuele, possiamo anche usare questo tempo che ci separa da qui alla trasmissione sì, per andare a mandare di continuo questo messaggio. Manuele da Roma, dai Manuele. Buonasera, allora io volevo dire a Parenzo che io adoro tutti voi. Allora io voglio andare, posso lavorare per te Cruciani? È andato via il tuo domestico. Prendi, no ma ragazzi, no ma che vuol io dire sono prendo un te? Transessuale. Ma figurati se sei un transessuale con sta voce, dai su, non sì, dire sì, stronzate. Sono, giuro, sono un transessuale. Ma non è vero, dai su, non dire stronzate, dai. Sono un transessuale, il mio vero nome è Emanuela Marini. Sto sì, per il 10 gennaio finalmente ci avrò l'udienza e spero che mi daranno l'ok per fare il cambio del sesso. Quindi, cioè, quale cambio? No, non ho capito bene, scusa. Allora, tutti noi F2M, cioè noi F2M vuol dire fake to male, stiamo diventando, io sono una donna che sta diventando un uomo. Ma ormai non è vero, ma dai, ma non diciamo stronzate, vabbè, dai. Come faccio a provare questa roba qui? Spiegami. Tu mi puoi dire quello che vuoi, tu mi puoi dire che vero, sei un alieno venuto da Marte e ti chiami Manuele sì, da Roma, eccetera. Sì, però non lo so. Ma come faccio a sapere? Cioè, tu mi stai dicendo che sei femmina, sei donna, sei donna. Purtroppo non nata biologicamente donna. Allora manda aspetta adesso vediamo se sei uno stronzo oppure guarda, no, basta che vai su Facebook, vedi Andrea Emanuele Marini, vabbè no non te lo posso spiegare, comunque te lo dico, il 10 gennaio c'ho l'udienza a via Giulia, no però scusa Emanuele, facciamo così una cosa molto semplice, sì, tu mandi la tua carta d'identità, sì, la fotocopia della tua carta d'identità, la fotocopia, la fotografia a sì, questo numero 393 71 71 701. Okay? Aspetta perché io sto non ho penna e non vabbè, ho nulla. Allora sono transessuale ma col testosterone sono diventato rincoglionito, quindi purtroppo ho la memoria corta. Cioè tu come... saresti, scusa, è uno di quei casi sì, abbastanza bizzarri, cioè tu saresti donna in realtà, sì, donna, sì, che sì, com'è il tuo vero nome, si può dire? Oppure il mio vero nome è Emanuela, poi ho scelto Andrea perché da piccolo mi facevo chiamare, dalle bambine per rimorchiare, mi chiamavo Andrea. Ti va, nome... Dunque, donna e evidentemente ti vuoi fare trapiantare il pisello, questo è il punto. Non no, proprio perché in Italia il pisello purtroppo... Non si può male, trapiantare. È un bius, no, si può fare, ma è un bius l'attaccato... Ma noi scusi, gentile sì, signore, gentile sì, signora. Sì. No, signora no, perché guarda, a 44 anni è stata... una sofferenza, già lo volevo no, fare. No, dico, ma per quale motivo secondo lei alle 19:23 nella radio della Confindustria, quindi degli industriali italiani, ma che c'entra questo? Scusa. Dovrebbe interessarci. No, ma infatti io ho chiamato per questa un altro sua motivo. Vicenda. No, io ho chiamato per un altro motivo, volevo spiegare, ah, essendo un transessuale e quindi avendo ancora i documenti sì, al femminile, quando sì, mi presento a lavare i piatti, anche a lavare i piatti, purtroppo molte persone mi dicono che non... Allora, a parte che una volta ho chiamato e mi hanno detto che dovevo sapere la lingua Bangladesh. No, però scusa, Emanuele, tu hai i documenti a femminile, non è che ti impediscono alle donne di lavorare, scusa, no, non ho capito. No, molti non vogliono problemi. Ma problemi vogliono... con che cosa? Problemi? Cioè... Non voglio spiegare quello che... No, che ho... Guarda, io lavoro in una mensa scolastica da 25 ma anni. Ma mica perché ti vedono in faccia e pensano che sei... Sì, io ormai a livello ormonale sono 2 anni che prendo testosterone, quindi ormai sono un uomo. Cioè, solo che quando vai a presentare, ma ovunque, alla posta, al... guarda, il prossimo mercoledì penso a una visita ginecologica. Non ho capito, le tette ce l'hai o no? Le tette ce l'hai o no? Ancora sì, però nel momento in cui il 10 gennaio il giudice ci darà l'ok, che potrò fai? Fare anche questo intervento. Cioè, di taglio, ti tagli le tette? Eh sì, non vedo. Ma veramente, se vai a vedere, io le nascondo. Ma i muscoli, che c'hai? Che fai? Beh, te le fa? Sì, vabbè, io diciamo che ho fatto atletica per tanti anni, quindi muscoli non... Cioè, sì, che fai con le tette? Te le copri con le fasce? Sì, che con fai? Una fascia per la schiena le schiaccio per non farle vedere. Mamma in effetti, mia, non... una cosa incredibile. Lo so, in effetti è una grossa sofferenza e il seno purtroppo... però è più forte di me, io non ci riesco, ma anche quando avevo 14 anni ho comprato la fascia, quella dei camerieri. Parenzo, non posso... ironizzi su queste cose, mi sembra che ironizzi. No, non è che ironizzo, sono silente rispetto a questo... No, dico rispetto a questo racconto che per carità è fondamentale, no, in una giornata. Fatemi finire, nel senso, effettivamente esiste un Andrea Emanuele Andrea sì, Marini. Sono io quello che vedete con quella faccia tonda. Con la faccia tonda, sì, cosa io. Un po' grassoccia, diciamo, no? Sì, cioè tu saresti in realtà femmina? Sì. Ma questo è un uomo, quello che vedo io. Sì, adesso sì. Se tu vai indietro con le fotografie, cioè io non nascondo nulla, calcola che io lavoro anche con i bambini, ho un'associazione culturale e i bambini diciamo che nel tempo hanno cominciato a vedere questo cambiamento e infatti un po' ho mollato l'associazione. Emanuele, beh, le mamme un po' si incazzavano magari. No. Guarda, le mamme, guarda, una mamma una volta mi ha detto la sicurezza è avere mio figlio dove ci sei tu, per me è la sicurezza, quindi stai per me, per lei non c'è nessun problema, i problemi me li faccio più che altro io. Comunque quello che volevo, giustamente Parenzo, se non ho chiamato per questo, volevo dire che io cerco lavoro, quindi a questo punto quest'estate sarò costretto ad andare all'estero. Perché non riesco a trovare neanche un cazzo di lavoro come lavapiatti. Innanzitutto mi hanno chiesto la lingua Bangladesh. E io a Roma... Ma questo non è vero, dai. Uno vuole fare il lavapiatti, a Roma la fa il lavapiatti. No, magari. Ma non è vero, dai. No, perché dovrei dire una bugia? Non stai qui a chiamare, ti posso assicurare. Non è per una questione di... In questo caso non è per una questione di trasfobia, che manco mi piace dirlo. Non starei qui, mi piace mentire, non sono pazzo, non assolutamente. Mi incazzo con questa cosa perché lavare i piatti, io capisco l'inglese, posso capirlo, ma la lingua Bangladesh, ma proprio non è che non l'accetto, cioè ci vabbè. Può parlare anche a te. Dunque, che vuoi? Non ho capito che vuoi. No, volevo dire che se mi volevi prendere a casa tua, pulì pure il lavandino dove pisci. No, grazie. Ezio da Torino, ciao. Ezio da Torino. Domandati come mai qui chiamano. Ma no, vabbè, ognuno è degno di parlare. Ma che cosa significa? Posto che la storia sia vera e che ha qualcosa da dire, a me che me frega se quello è transessuale, c'ha tre piselli, una cosa messa al contrario, non me ne frega nulla. Ognuno fa quello che vuole, ognuno si comporta come vuole, soprattutto ognuno ha le fissazioni sessuali che vuole. Ezio, vai. Sì, pronto. Dimmi. Eccomi, senti, volevo soltanto parlare un pochino di quello che è. Comunque, ragazzi, è stato rilasciato il Pakistan arrestato per l'attentato. Cioè, questo è questo. Ezio, vai. Sì, no, dicevo, volevo soltanto intervenire un attimo sulla questione dei migranti e su questo aspetto. Ma scusate, visto che tutti questi migranti vengono qui a bighellonare, ma perché? Beh, questo lo si dice, cioè o si vede per le strade, non è che qualcuno debba dire, no? Ok, dunque. Ma dico, questi vengono qui perché naturalmente ci sono anche dei migranti economici, come vengono chiamati. Vabbè, allora? Ok, allora, ma visto che vengono qui per migliorare la loro qualità di vita, noi non possiamo fare in modo di riportarli a casa loro e dargli 1.000 euro al mese che sviluppino la loro terra? È una cosa molto complicata. Qui. Alberto da Verona, vai Alberto. Alberto, signor, dimmi. Buonasera. Ma niente, un intervento sempre, tra l'altro fantastico il di Luca di prima, sono esteticamente sgradevoli, mitico. E invece Parenzo è intellettualmente sgradevole, nonostante tutta la stima. Ma perché, Parenzo, hai rotto le palle con il tuo buonismo intellettuale? Ti considero non anche... nessun buonismo. Ma no, è un buonismo, fidati. Per esempio, su che cosa? No, scusate. Il mio è il cattivismo, non è buonismo. No, Parenzo. Io, guarda, veramente ti stimo e anzi mi stupisco che tu usi la tua intelligenza e la fai degradare in questo modo per essere politicamente corretto. Il trumpismo, dunque questo, il trumpismo che avverrà, spazzerà via questo modo di pensare politicamente corretto, il riferimento è al discorso di Parenzo di prima, il discorso è il riferimento di prima sul discorso degli islamici e l'attentato di Berlino, per cui cioè tu dici che altre religioni non dentro altre religioni non succedono cose del genere? No, non dico questo, dico solo che scusa? No, voglio dire che è mancato un controllo. Vabbè, e quindi questo chi sei? Ma mica sei un poliziotto, dai, fermo là, dai. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Fineco, la banca. che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara. Difficilmente riuscirete a vedere i nani, perché li ho rapiti! Calma, calma! Signora, stia giù dal palco! Calma! Buoni! Su, giù, giù, giù dal palco! Giù, non salire! Giù, giù, giù! Calma! Ristabiliamo la calma! Piano! E sto scherzando! Quante storie per sti cazzo di nani! Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo, oh, Lores Vicenza, la mitica Lores ha chiamato Parenzo, Lores, Lores. Lores, ciao, David, ciao, ci cruciale. Sei o no? Non ho capito, David. Sì, ci sono. No, dico, mancava un intervento pacato e ragionato finalmente, sì. Dimmi, vabbè. Lores, dimmi. No, Cruciani, non ti posso lasciare solo un attimo che mi conviene, sì. Casini. Che ho fatto? Ma senti che voce che ha però, tutto così. Allora... Allora, Chiave Gatto e tutti noi. Sì, Chiave Gatto è un patriota. Sì, patriota, sì. Sì. Chiave Gatto è il non plus ultra del Veneto. Veramente. Sì, Chiave Gatto è il non plus ultra, ecco, del Veneto. Dunque, non, ecco, ti permettere mai più di offendere Chiave Gatto, sì, e i patrioti veneti. I perché patrioti, ti giuro che non ascolto più la Zanzara. I patrioti veneti. Ma finalmente, ma questa è un'ottima notizia. No, ma che ottima, no, no. Deve essere, no, l'apertura di tutti i quotidiani. Cruciani. Finalmente. Un po' di selezione. Dimmi, Lores, dimmi, che c'è? Che c'è? Stammi a sentire tu. Stammi a sentire. Vedi che bello solo con te, bellissimo. Che bello. Noi ci siamo anche visti, no? Sì, certo. Pensa che bello. Mamma mia, pensa del curriculum di Cruciani. Allora? È stata una bella cena. Allora, a cena sei andata con delle persone, ovviamente, per carità, non dovesse. Sì, non eravamo tette a tette, guarda, non esiste proprio, eravamo in 90. Non esiste proprio, non esiste proprio. Adesso non esageriamo. Se tu vai a cena con la Lores. No, ma sono andato a una cena dove c'era anche Lores, certo. Voglio dire, tu hai una figlia, hai una fidanzata, hai anche della bella gente che. No, beh, allora Lores, dai, dimmi. Lores, dimmi, per favore, dimmi, dai. Anche la fidanzata. Va bene, dai, ragazzi, va bene, una dai, meravigliosa ragazza, non so come faccio a stare con te, gliel'ho anche detto, ma insomma lei ci sta, poverina. Allora stammi adesso a sentire, Cruciani, comunque questa è una non usare mai più, mai intanto più. Tu non conosci la storia del Veneto, non conosci la storia di noi, di noi patrioti, ragazzi, ma veneti. Qui c'è un'altra cosa, un altro elemento. Oh, a me non me ne frega niente del Veneto, potete pensare quello che volete, Veneto indipendente, Vicenza indipendente. Allora, non ti permettere di offendere Chiave Gatto, tu non conosci quella persona. Ma è lui persona, che ha attaccato noi, ma chi se ne frega di Chiave Gatto, è lui che ha attaccato noi, è lui che ci ha detto... Ha ragione, dai, perché voi su siete stati due stronzi con la Rosina, ma beh, possiamo... ha ragione, sì, ma chi è lui, il portavoce di Rosina, non ho capito, ma chi è? Parla a nome noi di chi? Noi siamo tutti con i più deboli, sì, ricordati, ma... sempre, noi ci siamo ovunque ci sia. Ma dai, Lores, un ma tu non spento. Sei, ma chi te ricordati l'ha detto? Ma quella non vuole essere rappresentata da nessuno, ma che ti sei autoproclamata? Cioè, non ho capito, dai, su, pure tu che sei il rappresentante di... La Rosina di... ha bisogno di essere difesa, ma visto da chi? Come è stata da te, lasciata da, chi avega... da questo stato da... italiotta di merda, che presto andrà fuori dai coglioni del Veneto. La Rosina... Ma presto quando? E tutte le rosine del Veneto hanno bisogno di essere difese e noi ci saremo sempre, ricordatelo, Parenzo, perché noi siamo veneti, non siamo tagliotti di merda, hai capito? Tu sei italiana, hai i documenti italiani, non ti ricordo. Non cazzo, li hai visti anche tu il mio passaporto, mona, te l'avevi visto un cattivo. Ma non esiste quel passaporto, non esiste È quel passaporto. Quel passaporto. Ma quel per te è vero, ma se tu vuoi andare fuori dall'Italia con quel passaporto, con quella cartella che c'hai, con quella specie di targhetta che hai, quella specie di tesserina, è come quella della COP, è come la tessera della COP, è come la tessera dell'S Lunga. Ma la patente non esiste, è come la patente così di plastica, anche la patente. Ma non esiste quella patente, è la tessera dell'S Lunga, lo stesso valore. Stai commettendo un errore, fratello mio. Se tu dici, scusami, è vero, hai ragione, quella del Selunga ha più valore. C'è una voce fastidiosa che fa schifo, c'è una voce in sottofondo che fa vomitare. Spegni un attimo la pentola di polenta. Un attimo, Lores, fai la pentola di polenta. C'è un nano che fa vomitare. Lores, un secondo, fai parlare Parenzo un attimo. Paragonare la testa. Aspetta un secondo. Aspetta un attimo, ferma. Meraviglioso. Guarda, richiamala immediatamente, sta maleducata schifosa. Dai, che voglio dire, paragonare la tessera dell'S Lunga o della COP alla falsa patente veneta di questa marca, che è un'offesa che tu fai a Caprocchio. Sì, hai ragione, però ti è morto, ormai io ad esempio adesso ho qui, lo twitto tra poco, ho qui fatto il passaporto di Topolinia, ad esempio. Io sono un abitante di Topolinia. Adesso domani vado a Londra, mi presento alla dogana con il passaporto di Topolinia, vediamo cosa succede. È uguale. Dovresti fare la Libera Repubblica di Parenzo, la stessa cosa. Repubblica di Parenzo, con la tua foto, eccetera. Vediamo cosa succede al confine. Richiamatemi quella stronza. Io non capisco, questa qui l'hanno internata. Ma stronza in senso buono, ma no, ma è una persona normale anche. Questo non puoi dire. Assicuro, è una persona normale. No, è un aggettivo sbagliato. Non è ma una perché è normale. È normale. Una disturbata, è una chiara disturbata. Daniela, se tu al matto non gli dici che è un coglione, non gli fai il suo bene, ti posso dire? Aspetta. Non gli fai il suo bene. Lores, dimmi perché. Lores, salve. Se uno, una persona che le vuole bene, le dice le cose come stanno, lei è pazza. Ha passato il telefono. Però perché si comporta così? Dai, non va bene, dai. Daniela, provincia di Viterbo, dai, Daniela. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Dunque, io sono Daniele della provincia di Viterbo. Innanzitutto non mi fate incazzare indipendentista veneto, perché stasera non mi digerisce le sarde in saor. Scusami, quindi, Daniela, anche tu che c'hai adesso? Pure tu c'hai una voce strana. No, non c'ho niente, però sai. Hai una voce strana pure tu, dimmi che c'hai. Sì, c'ho la voce strana, c'ho tante cose strane, ma ce l'hai pure te tante cose strane. Che c'hai pure te? Che non ha cose strane, adesso chi c'è? Allora, Parenzo sembra normale, per esempio. Sì, dimmi. Parenzo sembra normale, per esempio, una persona normale. Diciamo socialmente accettabile. Ma di solito... Di solito l'esperienza mi dice che le persone normali nascondono le peggiori porcherie. Ma no, non necessariamente le peggiori, ma insomma qualche le più turpi. Piccolo borghese, Parenzo, forse da piccolo ha fatto il Boy Scout, ha fatto il chierichetto. È impossibile. No, stava nei giovani comunisti. Non hai fatto il chierichetto. Beh, però è strano perché c'hai tutti questi pruriti un po' di natura, sai, ogni volta se parla di sesso te agiti. Ogni volta, poi, su questa storia, come tu li chiami, i trans, caro Parenzo, ma non mi dirai che pure tu, forse la sera vai nei viali, hai in trans. Io sinceramente sono una donna e sta facendo il percorso. Ma pure tu trans sei? Giuseppe, stai la radio, ho 61 anni, ma non è possibile, ma mica sarà un delitto, no? Ma no, per carità, ma ormai è la radio di riferimento, anziché essere di riferimento degli imprenditori. Siamo diventate pure di moda. Allora, siccome siamo diventate di moda... No, ma scusa, allora, fammi capire, ma com'è possibile che chiamano tutti trans in questa tradizione? Perché io non ho nulla di incontro, per carità, non c'è niente di male, però possibile mai, non ci posso credere anche qui. Mandami una foto, 393-71-71-701. Vieni su Facebook e te la vedi. Io come ti chiami? Daniela? Daniela Pellegrini. Daniela Pellegrini? Sì, ci faccio tantissimi auguri alla signora. No, ma va bene, per carità, Daniela Pellegrini, in realtà ti chiami Daniela Pellegrini. Ha avuto una vita super normale, ha lavorato 35 anni in Rai. Non c'è dubbio. In Rai. Mio, ha studiato, ha fatto l'università. Ma come ti chiami di nome? Che cosa c'è scritto sul coso? Daniela Pellegrini, Civita Castellana. No, amica mia, però se sei trans sarai maschio, no? O no? Io sto facendo il mio passaggio, sto ancora in terapia ormonale. Ma e sto facendo le pratiche per cambiare i documenti all'anagrafe. Ma per passare da chi a cosa? Allora, spiego, piccola precisazione. M2F vuol dire da maschio a femmina. Da maschio F, a femmina, appunto. Sì. E poi... Invece, al contrario, sarebbe F2M. Allora, quando tu parli, caro Crociani, tu sei femmina. Di me, devi usare il femminile e devi dire una, perché io donna sono. Sì. Quando c'è un uomo come quello che ha parlato prima, devi dire uno, perché non è che ti chiamo Giuseppa. Amica mia, tu che c'hai? Ce l'hai l'uccello, sì o no? Eccolo là. Questa è la domanda. Ma no, ma è una domanda! Non ci capisco più niente con queste sigle. M2F, M2F, F2M, ma non capisco più niente. No, ma è una cosa. Ma no, Daniela, scusa. Ma no, però ragazzi, chiaritemi, vi prego. Giuseppe, ma ce l'hai l'uccello? No, ma ripeti, sì, ce l'ho. Ce l'ho. Allora, però non te lo voglio Daniela, Daniela dalla provincia di Viterbo, ti prego, chiariscimi questa cosa, io divento pazzo con le sigle. Sì, la domanda è molto semplice. La domanda è molto semplice. Ce l'hai, sì o no? Ti prego, non ho nemmeno ripetuto. Sì, benissimo. Cioè, te lo vuoi togliere, sì o no? Sì. Te lo vuoi togliere. Bene, questo te lo toglie l'uccello. Cioè, praticamente sei una trans tipo, che ne so, come era prima la Paradiso, giusto Parenzo? O sbaglio? Tu no, che ma corretto? Voglio dire... Sì, ma perché c'è bisogno un'indagine... di paragramme? Scusa, cioè io non c'è bisogno di paragramma, non so una categoria, ma non appartengo, come pensa Parenzo, alla categoria dei nani e ballerine. No, perché? Per carità. Parenzo, ogni volta che... Parenzo, vogliamo il trans! No, io dico con tutto rispetto, cara signora, ma io dico... Rispetto, Parenzo, sono essere umano come te! Ma non c'è dubbio, ma figuriamoci! Probabilmente, Parenzo, se ci mettiamo seduti a tavolino, ci facciamo due risate. Ma no, allora, ma io non ho nulla contro, l'unica osservazione, non ho nulla contro, anzi, lotto per i diritti di tutti, ma benissimo. Ma non devi essere né contro né a favore! Ma no, ma io la mia... È giusto, scusi, signora, la mia contestazione arriva semplicemente, non a lei che fa benissimo, ma noto che in questi ultimi anni la radio della Confindustria nella fascia oraria tra le 18:30 e le 20:50 è diventata una radio di riferimento oltre che per il mondo della Confindustria, no, degli imprenditori, no, anche di tutto il mondo trans, ma va benissimo, è meraviglioso. Ma, poi, oltre... ma vai allora cambia trasmissione, no, cambia, ma io ho una cosa, sono molto felice di questo, proprio di... Il ma problema è che dopo di lei... la radio della Confindustria ha alzato gli ascolti con la trasmissione La Zanzara. Vabbè, Daniela, adesso io non ho capito una cosa. Tu perché hai chiamato? Per esempio, un altro dei motivi. Ho chiamato perché non gliela faccio più. Un problema linguistico. Prima di tutto, Parenzo mi urta. Perché io non sono qualcosa di curioso, di buffo, di divertente o di... morboso, ecco, questa cosa morbosa, cattolica, piccolo borghese, pretina, pantofolaia, è veramente fastidiosa. Sono un essere umano, sono una persona... ma chi dice il contrario? Ma questa trasmissione... Buonanotte, ma no, quanti anni hai, scusa? Quanti anni hai? 61. 61. Il tuo vero nome di origine qual è? No, perché? Ma perché non mi ha... non me l'ha detto. Te lo posso pure dire, ma che senso c'ha? No, ma per dire, una curiosità, mi puoi dire pure Daniele, per esempio, magari è Daniele. Cioè... No, era Maurizio. Era cambiato tutti i documenti già, cambiato? Sto facendo adesso con l'avvocato, il tribunale, perché purtroppo in Italia... tribunali sono cazzi. Servono i tribunali, perché in Italia lo Stato... Devi cambiare le mutande, devi passare attraverso il tribunale. Ma ormai fai cazzo, devi cambiare i cavallini, devi mettere l'avvocato. Questo è fatto così. Cruciale lo sa meglio di me, no? Ma sei in pensione? Sei un libertario. Sei in pensione, sì o no? Purtroppo mi sono data volontaria. Cioè, mi sono licenziata dopo 35 anni di servizio. Buonanotte. Capito? E come ti trattava la RAI? Come una merda? La RAI ha fatto grandi cose. Poi, adesso non voglio parlare di mobbing o di altro, però insomma... Però hai avuto i tuoi problemi, eh? Ma non io, il mio settore. Ma c'hai, diciamo, fidanzati, cose, storie, sesso? No, poca roba. 61 anni. Cioè, veramente, sono stanca. Preferisco farmi un bel viaggio. Preferisco avere i documenti e partire e farmi un bel viaggio. Vabbè, i documenti ce l'hai lo stesso, non è che ce l'hai i documenti. Cioè, poi ce l'avrai i documenti. Vabbè, vai tu attraverso la frontiera, magari con l'Iran, con i documenti. Dove, ma perché devi andare in Iran? Ma poi vedo l'ho scritto Maurizio. Ma su, andiamo. Ma dai. Mica, perché devi andare in Iran? Vai in Svizzera, cioè vai in Francia, vai in Germania. Ma c'è non... Francia e Svizzera. Ma il problema dei documenti è per il lavoro. E perché se vai alle ma hai detto che non fai un cazzo, te sei licenziato dalla RAI. Faccio un cazzo alla RAI, ma farò altre cose. Vabbè, ho capito, ma ce l'hai i documenti, no? I documenti ce l'hai, non è che c'è bisogno adesso per forza sì, di farlo. E sì, allora? Però è un problema avere sì, i documenti per carità. Regola. Ma i documenti in regola ce li hai, sei tu che vuoi cambiare sesso. Non è che i documenti in regola ce li hai, sei tu che vuoi cambiarli. Ti chiami Maurizio, ti vuoi chiamare Daniela? Il problema non è degli altri, è tuo che vuoi cambiare sesso. Sì, sì, il problema è mio. Io mi... Sì, poi ci sono leggi in altri stati d'Europa dove bastano semplicemente le relazioni medico psicodiagnostiche. Con quelle tu poi procedi a cambio di documenti, a cambiare a grafico, cioè che in Italia per qualsiasi cosa anche per questo si debba passare attraverso una sentenza ad un tribunale, quando si tribunali non sanno più proprio dove mettere le mani, ma è veramente ridicolo. Ciao tesoro, ciao. Ancora chiavegato contro di noi. Chiavegato. Questo fatto qua, caro Parenzo, indica proprio la tua personalità. Una personalità viscida, una personalità di uno che si professa giornalista, ma non ha nemmeno il coraggio di metterci la faccia. La cosa che hai fatto è talmente vigliacca che non ci sono parole per descriverla. E ti ripeto, tu hai 40 anni. Caro David Parenzo, volevo dirti tante cose. Mi verrebbe da insultarti, ma non lo faccio. Ti dico solo una cosa. Ti auguro solo che succeda la stessa cosa che è successa a Rosina, a te, e poi lasciare che noi ridiamo di quello che ti è successo. Vergognati, David Parenzo. Vergognati, e noi ci vergogniamo di te come veneto. Tu non rappresenti il Veneto, Chiavegato, non rappresenti il Veneto. Sei il capo di un movimento indipendentista veneto, ex Forcone, va benissimo, perché ognuno fa quello che vuole. Mi stai anche simpatico da un certo punto di vista, battagliero, eccetera, eccetera. Però non capisco questa cosa qui, cioè questa noi, per carità, abbiamo i nostri difetti, ma non è che ti... Cioè, poi mi porti a dirti delle cose terribili che manco penso. Cioè, non... è assurda questa cosa qua. Chiavegato. Va. Mauro, provincia di Varese, dai, Mauro. Pronto? Dimmi, Mauro. Cucciani, salve. Fatti un attimo che tolgo viva voce. Eh? Sì, togli viva voce, no, se no mi incazzo, vai. Dimmi. Oh! Arrivo! Parenzo, ma ti pare normale che noi dobbiamo sopportare un'operazione di questo tipo? Uno che ha no, certo... però questa mi pare la meno peggio rispetto a tutto quello che in genere si manifesta dalle 18.30 alle 20.50. Quindi mi pare, come dire, no? Anche... Cioè tu dici, ti pare assolutamente normale rispetto sì, agli dico, altri? Questo mi pare normale rispetto a quelli che chiamano. Vabbè, ci sono state due telefonate, la signora Lores... bisogno di urinare nei lavandini rispetto... Cioè, l'elenco è lunghissimo, amico mio, l'elenco è lunghissimo. Mauro, dimmi allora. Pronto. Ecco, dai, dimmi. Ciao Cruciani, sei il mio idolo. Parenzo invece sei un provincialotto. Dopo ti spiego che perché. Che vuol dire? Sì, io ce l'ho su compo- perché lo ritiene tale questo suo giudizio. Dopo glielo dico anche perché, signor Parenzo. Ma mi ci mancherebbe altro, caro miserabile. Ma ci mancherebbe altro, prego. Non sono un miserabile, sono che lavoro e sto tornando a casa adesso dal lavoro. E bacio i piedi per terra che io lavoro. Allora, io volevo parlare del Poletti, del signor ministro, chiamasi ministro Poletti, ma non fatto? Si vergognano sta gente qua, ma non si vergognano più, ma non si vergognano più a dire che i ragazzi all'estero, meglio che se ne vanno all'estero, così almeno noi non gli diamo il lavoro e gli diamo lavoro ad altri. Quello un po' ne merito pirla, deve andare solo a casa, dimettersi domani mattina. Questo è giusto, quello poi... che ha detto, perché io conosco i ragazzi che sono usciti con 108, 109, ho fatto 18 anni di scuola, e li hanno chiamati dall'Inghilterra, hanno mandato curriculum in tutta l'Europa, sanno tre lingue, e in Italia non trovano lavoro, in Europa l'hanno trovato a 3.000 euro al mese per tre anni, a fare come si chiama la ricercatrice, ce li facciamo scappare tutti. E questa mi dice, questa ragazza qua che conosco, che quando smetterà di, se non gli danno ancora altri anni di lavoro, va in America per il supermaster, perché si mette via 1.000 euro al mese, perché ne guadagna 3.000, non 600 euro che gli voleva dare la sua università. Sì, però in alcuni casi, quando poi vogliamo applicare, caro Mauro dalla provincia di Varese, alcune regole che per esempio ci sono nel campo del mondo del lavoro, le vogliamo applicare da noi, Parenzo, tutti si scandalizzano. Sì. Cioè uno dice, no, Poletti ha torto, eccetera, eccetera, i giovani non scappano all'estero. Poi quando vogliamo applicare le regole che ci sono all'estero, sì, certo, per esempio su licenziamenti, eccetera, eccetera, tutti quanti a dire no, questo no, questo bisogna difendere il sistema italiano, eccetera, ma eccetera. Sai, perché se tu pensi alle regole che ci sono all'estero, pensi ad esempio alla Germania, pensi al fatto che in media un operaio tedesco viene pagato il doppio di un operaio italiano. Vabbè, questo... Scusa un attimo, Parenzo, però, scusa, questa ragazza qua figlia 3.000 euro al mese, però si paga l'affitto, si paga il treno, è in Olanda, l'ha mandata a Copenaghen a fare un simposio. Ma ci rendiamo conto della gente che stiamo perdendo? Va bene, vai. Dove andiamo? No, Rita, Roma, aspetta, fermo. Mauro, che c'è? Dimmi ancora. Che c'è? No, volevo dire un'altra cosa. Del dramma che stanno vivendo, come si chiama, i poveri transgender, come possiamo chiamarli. Un dramma psicologico. I transgender, però io volevo parlare tu. Anche... Santi Dio. Di questi politici di merda. Ma che c'entra? Ecco, l'italiano medio non riesce più a arrivare a fine mese. Vabbè, ma lo sappiamo, dai, forza tu, Rita da Roma, dai, mamma mia. Che... Ciao, sono Rita, intanto ti adoro. Sì. E poi, niente, volevo proprio in breve dire l'esperienza. Vedi che cambio di voce, che cambio di passo, Parenzo, tra una e l'altra. Vai, dimmi, sempre. Allora. Sempre a proposito dell'uscita del ministro, io ho mio figlio 22 anni, cuoco. E siamo a Roma, quindi un bel ristorante. Dunque? Ha lavorato per circa 3 mesi, 8-9 ore. Alzi leggermente la voce, se no non si capisce. Sì. Dunque, 8-9 ore al giorno per 3 euro l'ora. A Roma. E lui a Roma, quindi proprio. E poi invece è andato all'estero? No, poi ti voglio dire che dopo 2-3 mesi di esperienza, quindi lui comunque, l'importante era lavorare. Sì, però amica imparare. Mia, arriviamo ad una conclusione di questa epopea di tuo figlio. Era perché... bravo, che era bravo, che però avevano bisogno di una persona con più esperienza. Vabbè, ma a noi che ce ne frega, scusami, abbi pazienza, io ti rispetto, Rita, no, ma a noi di quello dire... che tuo figlio ha passato qui in Italia, a noi che cosa ce ne frega? Spiegami. No, ti volevo dire che poi alla fine lui ha avuto un'esperienza all'estero, ecco, per 6 mesi in Germania. E invece lì ha preso uno stipendio ottimo, stipendio. In che settore? Cioè, in che settore? Sempre come cuoco. Cioè, tu dici i cuochi sono pagati più in Germania rispetto all'Italia. Va bene. Siamo su 25 euro al giorno e dopo 2 mesi. È quello che diceva Parenzo prima. Vabbè, ho capito. Ho capito, amica mia. Però che questi ragazzi se ne debbano andare per forza. Sì, perché qua non hanno proprio una possibilità. Questo volevo dirti. Di crescita. Di crescita. No, di sviluppo, di crescita, di testa, di tutto, di professione alla fine, no? I cuochi. Bah, ciao. Siete veramente pietosi. La Zanzara. Davide, calma. Non hai capito un cazzo, però. Bello Figo Gu deve essere quello che è stata, anche se è andata male, ma chi se ne frega, Katy Perry, Lady Gaga, per Hillary Clinton. Deve essere il tuo cantante per la campagna elettorale. Tu non hai capito le potenzialità. Ti sento un po' critico. No. Bello Figo Gu parla di quello di cui parli tu. Certo, parla anche delle fighe bianche, ma lascia perdere però tutta quell'ironia che fa sugli immigrati. Sono i tuoi discorsi. David, sveglia! Allora, Nicola da Ravenna, vai Nicola. voglio ricordare sulla vicenda Poletti che oggi è stato segnalato, sarà una piccola cosa ma importante, che il figlio del signor Poletti, che si chiama Manuel Poletti, è direttore di giornali che fanno che sono nel giro delle cooperative, e ha preso nel 2015 un finanziamento pubblico di 190.000 euro e rotti. 190.000 euro e rotti. Il signor Manuel Poletti, che è direttore di uno di questi quotidiani dell'area delle cooperative, da lui diretto, ha preso 190.000. Cioè, lo stesso, c'è il figlio del ministro Poletti. Non è scappato all'estero, e forse si capisce anche perché. Cioè, ciao, non è andato. Un giornale che percepisce aiuti di Stato. Oh, tutto chiaro? Tutto normale secondo voi? Questo. Nicola da Ravenna, no, vai. Infatti questo, ragazzi. Non lo so, cioè, ragazzi. Nicola, vado. Vai, dimmi. Vado. Comunque, no, ragazzi. Su Poletti volevo dire, insomma, questo qua, ormai tutto quello che dice viene attaccato a priori, dai. Ha fatto sta riforma, per me è roba da 1800, poi ognuno la pensa come la ma vuole. Ma che cosa dici? Jobs Act, dici? Il Job Act, sì. E vabbè, lì, allora? Dai. Vabbè, il governo Renzi non è eletto, la solita menata, la solita cosa, si mette a dire la sua, ha ragione a torto, insultando le persone, questi qua come la devono prendere alla fine? Insomma, già la gente non ce la fa più, se ci metti anche a insultarli. No, no, ma Nicola, infatti il punto è proprio questo, cioè già sei rimasto ministro di un governo che si è dimesso perché gli italiani... Sì, adesso di nuovo ministro e tutto. Che... Cioè sei di nuovo ministro, già insomma, già stride un po'. In più la prima uscita che fai dopo che è tornato il governo, parli di quella roba lì dei giovani che sono andati via dall'Italia, che è meglio che si restino lì, che fanno più danno sì, qui che altrove. In quel modo lì ne parla, voglio dire, se il ministro è tutto, già la situazione è quella che è attualmente economica, insulti le persone, come la devono prendere, voglio dire, cioè, dico sì. Bene o dico giusto, non no, so, no. Di Vite, Michele, esatto. Provincia di non so che cosa, che è Andria, Bat, ma perché devo leggere queste cose io? Dai, su, da dove chiami? Purtroppo, ma da dove chiami, Michele? Da dove? San Ferdinando. Bene, allora. Volevo parlare con quella signora veneta, gli avete dato tanto di quel tempo, senza rispetto di tutti i morti pugliesi o del vabbè, sud, ma ragazzi, che ma chi se ne frega però dei morti del sud, cioè, non se ne frega niente, ma anche tu allora sei uno, ma che me ne frega a me dei morti del sud, scusami, ma non morti, è che non me ne frega dei morti del sud, non me ne... di cosa stiamo parlando, di cosa parliamo? Queste che se ne vuole andare dall'Italia e va bene, ma saranno i fatti di Lores, che c'entri tu, che, no, da, che cosa, niente. Da che cosa ti senti offeso, Michele, spiegami perché se ne vuole andare via e non pensa a tanti morti che sono avvenuti per le guerre, per fare l'Italia. Aspetta lì. Allora, ha definito razzista Feltri, dopo quello che ha scritto sul Libero questa mattina, Parenzo. Attacco a Natale, maledetti terroristi islamici. Ma frega niente, ma di che cosa ha parlato? Non mi interessa. Beh, scusi, Feltri, ha scritto fuori dai coglioni, liberiamoci di questa gente. No, così. Ho detto una cosa normale che pensa chiunque, ma non me ne frega niente del vostro giudizio. Ho detto semplicemente prendete i vostri cammelli, prendete le vostre tule, che a me non me ne frega niente. Allora... E andate via, io adesso vado al ristorante, non me ne frega niente. Allora, ci odiano a morte. Tanto è vero che ci ammazzano in serie, mentre... Ma allora, se fai dire... Se leggi tu quello che ho detto io, cosa mi inviti a fare? No, questo anche... Ma no, capito? Ma non me ne frega niente, vado via. Ma scusa, leggi tu quello che ho detto io, ma non me ne frega niente, vado via. Mentre noi idioti continuiamo a predicare l'accoglienza che... E in effetti li accogliamo in massa. Continuerà a succedere finché non li manderemo a casa loro a vivere accanto ai cammelli. Ma proprio così hai detto allora, Oh. Ma se l'hai letto tu, ma non mi dici, io vado a mangiare a questo, ho già chiuso il giornale, ho già scritto maledetti islamici e me ne vado, ma come frega niente a me? Ma niente. Allora, lo ha definito un razzista, addirittura il migliore alleato dell'ISIS, un deputato del PD che è anche amico tuo, che si chiama Khalid Chauki. Buonasera. Buonasera. Ciao buonasera Khalid, allora addirittura razzista a Feltri? Beh, è il minimo che si possa dire di fronte a un articolo che, insomma, essere offensivo e che diffonde odio nei confronti di una comunità solo perché professa un'altra religione, penso sia il minimo che si possa dire a Feltri, che sarà sicuramente un grande giornalista che io rispetto, ma quello che ha scritto oggi in qualsiasi altro lo paese definisce civile razzista del mondo sarebbe minimo definire razzista, se non addirittura perseguibile penalmente per le cose che ha scritto. Cioè lo vorresti portare in tribunale? Cioè se in un altro paese sarebbe da portare in tribunale? Portacelo tu, denuncialo. le offese non sono, non si possono fare gratis nemmeno per strada. Scrivere su un giornale sperando. Ma sarebbe da chiudere addirittura? Un giornale in un altro paese sarebbe chiuso? Un giornale razzista, secondo te? Ma io non amo i paesi che chiudono i giornali di qualsiasi tipo, però, credo che Felte, per quello che ha scritto, definirlo razzista è la cosa minima che si possa fare, perché fa il gioco dell'ISIS come addirittura alleato dell'ISIS. Perché l'ISIS è quello esattamente che vorrebbe una società europea in cui ci sia la guerra tra cristiani e musulmani, e sta dando ragione a questo. In parte un minimo di guerra c'è, cioè attentati, stragi, eccetera, eccetera. Non è che non la ci guerra, sia. La guerra è tra un gruppo piccolo ma pericolosissimo, che è quello dell'ISIS, e la maggior parte della comunità europea, di cui fanno parte anche milioni di musulmani che, grazie a Dio, e per fortuna lavorano e vivono pacificamente in Europa. Felti forse non frequenta le nostre città, non frequenta i nostri paesi, vive troppo rinchiuso nel suo mondo e vuole dipingere un'Europa che per fortuna non è, perché però, se fosse, come dice lui, saremmo già alla terza o quarta guerra mondiale. Ti vorrei dire questo. No, però qui c'è un deputato, scusami. La persona che sta parlando, che è un deputato marocchino, un riguardo italiano, di origine marocchina. Sì, ma lo conosco benissimo. Lo dico per chi lo ascolta, di fede musulmana, che ha una bellissima famiglia, dei figli, una straordinaria moglie. Domani i figli di Khalid, i figli del fratello Khalid, del cittadino italiano. Vabbè, Khalid, allora? Domani io mi vergogno. Vanno a scuola, magari qualche genitore di qualche compagno di scuola dell'amico Khalid ha letto quel titolo e dice: ma i bambini di Khalid, chi scusami, ci pensa? Scusami, hai paura, Khalid? Scusami un attimo, adesso hai paura che i tuoi figli vadano a scuola e ti possano dire qualcosa? No, spiegami. Se uno come Felte, che è ritenuto uno degli opinion maker dell'Italia, e definisce coglioni milioni di persone perché professa dice fuori dai coglioni, poi dice anche ancora peggio, non distinguendo tra i responsabili terroristi e la maggior parte delle persone per bene, che sono appunto distinzione c'è, perché è chiaro che chiunque può permettersi di fare questo, e soprattutto appunto, cioè secondo te indirettamente contribuisce all'odio magari che qualcuno ha nei confronti dei tuoi figli o nei confronti, cioè lui contribuisce all'odio, contribuisce assolutamente all'odio. Sì, perché se una persona che non ci fa ma sono caso, delle opinioni, non sono opinioni, il razzismo e il nazismo prima ancora del razzismo non erano opinioni, su nazismo, allora, definire un'intera comunità come appunto persone che vivono a sbafo, che sono qui a rompere le scatole, che dobbiamo cacciare via perché sono un pericolo, non è un'opinione, però è un incitamento all'odio. Parla di islamici invasati, di bastardi che hanno colpito in prossimità del Natale. No, lui dice: noi stiamo tenendo qua migliaia e migliaia di persone così, che non abbiamo ancora capito che ci odiano, che non gradiscono la nostra millenaria civiltà. Ci sono un sacco di persone che, anche se non fanno materialmente attentati, ci odiano nelle parole, ci odiano in quello che dicono. Allora chi sbaglia, io sono il primo a dirlo, ma si sbaglia perché tu non ci odi, anzi tu sei italiano, sei islamico italiano e non odi la civiltà occidentale, almeno fino a prova contraria. Milioni di persone come me sono così, non è questo il problema. Chi fa attentati, chi è diciamo solamente minimamente pensabile che possa compiere qualcosa, sono il primo per dire che va espulso, va punito, eccetera. Abbiamo fatto una legge apposta per questo, che addirittura toglie il passaporto a chiunque possa anche pensare di trasferirsi, bravo, di andare a organizzare attentati. Cioè, tu dici d'accordo. L'espressione continuerà a succedere finché non li manderemo a casa. Quello che sta facendo è cercare di parlare alla pancia degli italiani, cercare di andare contro il pericolo è Feltri. Di vendere qualche cioè, copia no, un imam di un che predica che sta fallendo, di un giornale che è indebitato fino al collo, sperando di vendere qualche copia in più, insultando milioni di persone. Ti segnalo, caro Khalid Chaouki, deputato, che tu stai dicendo che lui, semplicemente perché secondo te sta fallendo, a parte che ci scrivo anch'io, non mi risulta che stia fallendo, ma pare che mi sbaglio perché non sono dentro. Belpietro ne ha raccontate. Vabbè, ma che vuol dire? Quelli sono cazzi loro, ho capito, ma non è che puoi sentire solo una campana e poi chi se ne porta. I titoli che urlano e magari qualcuno in edicola. Cioè tu dici, fanno i titoli che urlano per vendere qualche copia in più, allora, perché stanno fallendo. Cuciani, prima io non sono anche giornalista come te, uno può dire le stesse cose in modo diverso. Ho capito, ma quello è uno stile. L'offesa e l'insulto non è uno stile, Beh, ha ragione. Ma no, ma ragazzi, ma lui sta dicendo semplicemente che è convinto, perché lo ha scritto in molti mesi, non sono, non dovrei essere io a difenderlo. Puoi chiedere una cosa, un scusami, secondo. Khalid, è convinto che l'Islam, in fondo, l'Islam sia in... di Khalid? Ma come vuoi che si svegliano? Ma si svegliano tranquilli, penso, no, Khalid? Come no. si svegliano? Io non dico che questo clima di paura che c'è in Italia e che è alimentato da Libero, Libero alimenta il clima da paura, alimentato dai vari Salvini, da chi lo scimmiotta, dai vari Feltri, è un clima che non è utile per la nostra, cioè, se uno scrive fuori dai coglioni, fuori dai coglioni gli islamici violenti non ha scritto islamici violenti, ha scritto che siamo di fronte a musulmani genericamente a cui noi diamo da mangiare, diamo da bere, eccetera. Ma quelli che arrivano, lui intende, questa è un'affermazione per me superficiale, ignorante, che alimenta solo ancora pregiudizi, tutto qua. Questo è quello che ho detto. Se lui avesse detto c'è una roba da denunciare, ma scusa, perché non lo denunci tu direttamente? Cioè, per razzismo, violazione della legge Mancino, lo hanno già querelato. Io, se vuoi, aggiungo la mia ennesima. No, se voglio, no, non lo voglio. È quello che dici, è quello che è questo. Però, in un paese normale, non dovrei farlo io. Perché e chi lo dovrebbe fare direttamente? D'ufficio? No, dovreste farlo anche voi, giornalisti. Io sono per la guardia, io sono per l'esistenza del Ku Klux Klan. Figuriamoci un po' se posso. Le associazioni dovrebbero farlo, il presidente della Repubblica. Ho capito, ragazzi, ma non è che uno può. Scusa, censurare una roba così allucinante che... No, io ti dico solo questo, se conosciamo, conosciamo tutti benissimo... Ma è una roba idiota, è una roba idiota secondo te? Cioè è una roba da idioti, ce la consideri un idiota? Ma è una roba idiota perché fa il gioco dei nostri nemici, che è l'ISIS, cioè l'ISIS vuole... Ma tu stai dicendo una cosa folle, che Feltri è alleato dell'ISIS... Sì, perché lui ma fa Ma come sì, gioco. Alleato dell'ISIS? Allora, Luciani, l'ISIS... L'ISIS vuole dire oggi ai musulmani in Europa, è inutile che cercate di vivere lì tranquillamente, perché l'Europa non potete starci, non perché vuole. Loro sono i vostri nemici, non vi vuole. Allora, esatto. Feltri li sta praticamente sta mettendo nero su bianco quello che è la loro massima alleato aspirazione, alimentare quest'odio. Quindi lui fa il loro gioco, magari consapevole, inconsapevole, non lo so, ma sta di fatto che Feltri... Scusa, sta ma alla domanda semplice questo, che arriva... Alla domanda... No, scusami, uno legge questo, aperte virgolette. Andate tutti fuori dai coglioni. Sì. Allora io dico, mi metto nei panni di, ancora una volta, è il titolo di un giornale, bambini... è il titolo di un giornale, no, voglio mi metto è nei il titolo di un giornale. Bambini. I bambini di Khalid leggono o vedono i telegiornali, leggono e vedono. Ma quelli, che quello è italiano, dice... è italiano, che c'entra? Esatto. Cioè, e lui si riferisce a quelli che arrivano qui, che, a quelli andate che arrivano. Tutti fuori dai coglioni. No. Il figlio di Khalid Chaouki, che è anche un privilegiato allora? Rispetto a altri bambini, perché Khalid allora, è una persona che si sveglia la mattina, allora si sveglia la mattina, con che animo va a scuola a parlare adesso, con non i suoi non è che è necessario leggere Libero, Se qualcuno gli ha detto, se ha letto che in Italia... Vabbè, i suoi genitori qualcuno... sì. Ma ho capito, va bene, lo leggi tu Libero, ma che come vuol ma dire? Ma non è un paese normale questo, che ma nega, in America esiste il Ku Klux Klan, in America esiste il Ku Klux Klan, in America, amico mio. Ma non adottare la violenza. In America esiste, non sto paragonando, scusami, Khalid, non sto paragonando Libero ovviamente al Ku Klux Klan, ti sto dicendo che ci sono paesi in cui esiste una stampa la più variegata, la più diversa, con idee molto eccentriche, esiste il Ku Klux Klan in America, nessuno dice... Dai, in America hanno un'altra costituzione. Vabbè, ma che non c'è? Dici, prendi le armi, vabbè, vai contro la costituzione. Pure Libero, in Italia non è così. Cioè, Libero contro la costituzione, secondo te? Sì, perché l'Italia invita all'aspetto di tutte le confessioni religiose. C'è una legge Mancino, non posso sostenere delle idee, vabbè. E parla di incitamento all'odio su base religiosa e razziale. No, ma ho capito. Ha fatto questo e quindi al di là delle scusa, opinioni, ma quelli che dicono perché le altre religioni non fanno questi attentati, come rispondi? Un sacco di gente che scrive così. Perché? Ma io l'ho detto addirittura in un'intervista a Senaldi su Libero, che oggi il problema dell'Islam è chi lo interpreta in chiave violenta. Perché ci fa le interviste? Se pensi interno ai musulmani, capito? Ma che appunto un direttore di un giornale Vittorio Feltri faccia un articolo insultando un'intera comunità, questo non lo posso accettare, come vabbè. Non avrei accettato per se fosse nei confronti dei cristiani, degli ebrei, dei buddisti o dei, che ne so, degli altri. Ho capito. Sento offeso nella mia religione e penso che gli italiani dovrebbero ribellarsi a questo modo di fare giornalismo. Vabbè, ciao Khalid. Ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Roberto Speranza, hai la faccia come il culo. 92 minuti di applausi! Allora, con l'intervento di Chaouki, caro David, che ne ha dette di tutti i colori su Feltri, di tutti i colori, ne ha addirittura contro la Costituzione. Beh, ha detto però, Non frega niente, tecnicamente. Quello lì è un deputato marocchino, islamico, per me può prendere il suo cabello e tornare nel suo paese. Frega niente, suo paese. Dicevo, con l'intervento di Sciocchi si è palesato anche Donato. Ma come si chiama? Io conosco i Brambilla, conosco il signor Brambilla, conosco già Cruciani, ma non conosco c'è uno, non so cosa sia. Non mi interessa, non ci dico cosa cognome, che roba è, non è di Milano. No. Ma uno può chiamarsi Sciocchi, ma anche questo, ma vogliamo interrogarsi un attimo di questo. Ma non frega niente, il cognome è. Ma dove andremo a finire? È di origine marocchina, scusa. Ma da vedi, ho detto prima, ma dove andiamo a finire? Brambilla, non c'è più il cognome Brambilla. Grande inchiesta di libero, me ne frega niente. Ma è pieno di Brambilla dappertutto. È pieno. Ma non ci sono più i Brambilla, sono scomparsi, chiamiamo tutti Chichi, Cuchi, Galaccia, Cuchi, ma che roba è? Ma che paese è? Cosa avete fatto? Ma me vado via io. Allora. Ma vado via, ma ne frega niente delle vostre cose. Mi invitate come direttore di libro, non mi fate mai parlare. Leggete i miei articoli, fate quello che cazzo, ma me ne vado via. Invitate sto signore qui, arabo, eletto non si sa come, dove. Ma torni, ma nella casba deve andare, ma che roba è? Io parlare tra Senato, voglio solo avere soltanto nomi italiani, ma che roba, ma è normale secondo voi, ma che roba è? Donato Varese, Donato sarà avvelenato. Sarà avvelenato certamente. Ciao. Io non sono avvelenato, io sono un uomo che vorrei completamente spaccare il mondo. Allora, vorresti spaccare anche la testa a tanti italiani che purtroppo. Sì. Bentegatti italiani. Come non si potrebbe chiamare questo Ciao Chi? Ma Ciao Chi c'è un casino. C'è un io casino. Guarda, è italiano, però entrare, è italiano. Se tu avessi fatto. Questo per me è sempre un islamico. Se tu m'avessi ma che fatto c'entra? Entrare, italiano di passaporto? È un islamico! Se tu me l'avessi fatto entrare, mi avessi fatto parlare, io gli avrei fatto alcune domandine. Sì. Che lo avrei fatto cadere a testa in giù, mi avrebbe detto. Per esempio. Perdonami! Sì. E mi avrebbe detto, signor Donato, sì. Lei ha capito tutte le nostre strategie, per cui noi siamo qui in questa Europa, non siamo venuti qui in Europa a lavorare, non siamo qui in Europa per fare figli e per avere una vita bella, no, siamo venuti in Europa per strapparvi le radici di dosso, per strapparvi le radici, questo l'hanno detto due musulmani tempo fa, quando io dissi guarda che hanno buttato giù le torri, sai cosa mi disse? Stiamo ancora festeggiando da un mese gli islamici. Allora io ve lo dico, io non ce l'ho con gli islamici. Con chi ce l'ha? Io ce l'ho con tutta quella putrida, quella pletra di assassini di sinistra, compreso quel merda che hai a fianco, e qua l'Italia ancora si sta domandando come cazzo fai a tenere una merda così a fianco che non fa, allora che non fa altro che dare all'Italia un aspetto crudele assassino. Allora, ma come crudele assassino? Io voglio parlare con Ciocchi. Io gli devo fare qualche domanda. Ma qual è la domanda? Parezzo, qual è la... chiedere. Che cosa vuoi fare? Non voglio. Allora, prima gli dovrei chiedere un attimo. Se lui lo sa che questa è la terra di Yahweh. Yahweh sa chi è? Yahweh è il dio del cristianesimo, della Bibbia. Ma ed è. Ma lo Cristo sa. Nelle, ed è scritto anche nelle chiese. Allora, Ciocchi, a me deve dire il dio dei cristiani. Dove cazzo se lo vuole mettere? D'accordo? Questa è una terra cristiana. Allora, scusami. Tutti i paesi dove adesso regna l'Islam erano tutti cristiani. Vogliamo parlare dei copti che li stanno vicinando? Ma adesso non facciamo la storia, Donato. Non facciamo la storia. Io non sto dicendo, storia. È italiano, signor Ciauchi, è italiano. Per me è un islamico. È italiano di passaporto. Che pezzo di merda gli ha dato la cittadinanza? Per me resta sempre un islamico, un mio nemico. Non perché lui vuole la mia morte. Perché lui è lontano anni luce dalla mia visione. Dunque ha ragione Feltri. Feltri è un... certo che ha ragione. Sarà arrivato pure a quell'età per aver capito tante cose, no? Feltri ha ragione. Allora, Rai 1, bisognerebbe dare fuoco a Rai 1 perché c'è un sacco di pezzenti giornalisti, tutti immigrazionisti, a favore del meticciato, a favore dell'Islam. Rai 3, io te lo dico, sarebbe da bruciare, compresa quella porcella della Letizzetto, quella merdosa. Ma che ha vorrei fatto? Scrivere io qualche cosa per Letizzetto. Ma che ha fatto? Tu scrivi le cose mie comiche e le dirai e beffeggiamo tutto il mondo sporco e puto della sinistra ma che sta facendo incendiare l'Europa. Ma è difficile anche incendiare Rai 3, perché non si capisce bene dov'è, cioè dovresti incendiare la Saxa Rubra intera, cioè Rai 3, non è che c'è... Portare via tutta quella gente, i traditori degli italiani. Ma dove, sono come? Sono tutti quelli ubicati su Rai 3, è una massa di porci maledetti che non amano le sofferenze dei veri italiani. I veri italiani stanno morendo e questo assassino che tu hai in redazione degli italiani se ne sbatte il cazzo, mettilo in testa! Parla di me in questo caso. Allora, chiamatemi subito questo ciao qui che gli devo fare quattro domande. Che gli devi fare? La prima l'abbiamo capita, la seconda qual è? Gli devo dire chi è Yahweh. Yahweh, ancora questo Yahweh, la terza, passiamo alla terza. Cosa ne facciamo di Yahweh quando arriva là? Che facciamo? Chi è Yahweh? Ma che ne so? Come si può pensare che un figlio abbia due madri? Ma chi? Uno, stabiliamo chi è il vero Dio. Stabiliamo in casa nostra chi è il vero Dio. Cacciamolo di qui. Chi è il vero Dio qui in Italia? Chi è il vero Dio? Ma non lo so. Anni qua, chi è il vero Dio? Ma non lo so, chi è il vero Dio? È Allah, Yahweh. È Allah o Yahweh? Prima quello lì. Che io, Parenzo. Perché con un altro Dio? Parenzo. Perché non in questa terra cristiana? È Allah o Yahweh? 50 milioni di cristiani siamo andati forse alle terre islamiche. No, io l'unica... Aspetta un attimo. L'unica speranza è che è questa. Ogni volta che lui chiama, la speranza è che non ci sia al suo fianco un defibrillatore. Spiego. Un defibrillatore, nel senso che non questo c'è no, in casa, però, no? L'unica speranza, l'unica speranza è questa, che lui, io essendo molto accalorato tu a mio confronto, offese, tu a mio confronto hai i media a tuo confronto, io non ho un cazzo, e ricordati che ci sono milioni di italiani che vorrebbero ascoltarmi, un uomo di merda! Un milione! E tu sei un nostro nemico! A cui ti è stata data voce! No, nostro nemico, ma nemico di chi? Nemico di chi? Sei un nemico degli italiani! No, ma chi? Italiani! Parenzo, nemico degli italiani! No, canto fratelli d'Italia! Sì, nemico d'Italia! Canto fratelli d'Italia! Canto fratelli d'Italia! E poi c'è una terra cristiana! Questa, allora c'è quel porco del Papa. No, vabbè, adesso di nuovo il Papa. Dai, su. Ma deve no, chiamare, ma che ha fatto sto Papa di nuovo? Giuseppe, io c'ho un nome. No. Ah, allora, gli islamici hanno dato un nome al loro Dio. Passiamo alla quarta. Vorrei sapere perché i cristiani non danno un nome al loro Dio. Alla quarta domanda che vorresti fare a Ciauchi, qual è la quarta domanda? Voglio dire sì. Che questi qua sono di qua soltanto per islamizzare, semplice. Terrorizzarci. Ma quello c'ha i bambini, quello c'ha i bambini. Quando io dicevo qualche tempo fa che i profughi devono essere cristiani, i profughi, per logica, io non me lo immagino il Qatar. Mettiamo in caso che noi prendiamo d'assalto un paese arabo. Vabbè, Donato, ti devo lasciare. Ciao. Gian Pietro, Bologna, vai. Gian Pietro, dimmi. Mi sembra che quello che interveniva era un gran coglione e Petri si dovrebbe togliere dai coglioni anche lui. Addirittura. Rimane che è una cosa. Ma dai, ragazzi, ma qui c'è una libertà, cioè la libertà viene. Beh, infatti la mia libertà è che Petri si tolga dai coglioni. La questione è molto semplice, Petri dovrebbe domandarsi, visto che tutti i grandi grattacieli di Milano sono stati comprati non dai Brambilla, ma dagli sceicchi del Qatar. Il Monte dei Paschi di Siena deve essere salvato da un fondo del Qatar. L'Italia appartiene al Qatar. Allora forse dovremmo domandarci, ma forse il Qatar quando arriva coi jet, ok, e gli stendiamo i tappeti rossi, poi sono i sceicchi del Qatar, dell'Arabia Saudita. Ma è evidente che non si riferisce a quelli, dai. Ma è evidente. Sono loro i terroristi. Poi ce la prendiamo con i morti. Tu dici perché sono quelli che poi danno i soldi spesso. E noi siamo i complici. Noi gli vendiamo miliardi di euro di armi con cui vanno a bombardare lo Yemen, con cui danno le armi all'ISIS, con la Turchia dove noi andiamo a fare le nostre produzioni perché lì il sindacato non esiste, perché lì c'è un Erdogan di merda che comunque gli diamo i miliardi per gli immigrati, che però anche lui ha collaborato e faceva passare i foreign fighters che andavano in Siria, ok? Vabbè, insomma, tutto quello che stai dicendo, dici le cose sono più complesse. Quelli che dovrebbero saltare in aria sarebbero gli sceicchi, sarebbero ma anche i nostri governanti, che sono loro complici. Le merde come Hollande, le merde come Renzi, Perché che ha fatto Renzi? Sarkozy, che ha fatto Renzi? Come Merkel, come Obama. Che hanno fatto? Sono complici di questi terroristi. Sono loro che gli vendono le armi e gli fanno piovere dal cielo. Noi diciamo come mai che i cristiani non fanno questi attentati. Ma gli Stati Uniti, dall'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria, alla Libia, che cazzo hanno fatto? Fermo lì. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento La Zanzara. Parenzo, ti stimo, tu che per le lunghe tratte usi un NCC, non legge con conducente, vai, sei un grande. Allora, Mohamed Milano, Mohamed, vai Mohamed, dimmi. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Devo commentare un attimo questo fatto che ho sentito per l'ennesima volta, ma è possibile che viviamo ancora un momento di qui quando succede qualsiasi cosa, ogni cosa, iniziano subito a attaccare l'Islam e attaccare i musulmani. Innanzitutto, prima cosa bisogna capire cosa vuol dire Islam e cosa vuol dire musulmani, perché mi sembra ancora che chi parla non sa minimamente di che cosa sta parlando. Primo. Secondo, se siano veramente attentati di un certo tipo, ma soltanto l'ISIS ha rivendicato l'attacco. Ecco, sappiamo che chi fa questo tipo di azioni, chi sono. E poi detesto anche sentire sempre islamici, perché se c'è un partito, se c'è un gruppo che si chiama XY, dobbiamo nominarlo a quel nome. Non dobbiamo dire islamici, come si possa dire ai mafiosi cristiani, una cosa che non è accettata da nessuno. Quindi lo vabbè, amico mio, adesso non facciamo discorsi vaghi. Comunque, questa è la prima. La seconda, un giornale che dice fuori, ma fuori di dove? Cioè, qui la gente vive, lavora in proprietà. Cioè, se io vivo in casa mia, nessuno ne ha il diritto di cui ho acquistato, ho pagato, lavorato, nessuno ha il diritto di dire fuori. Poi, neanche è casa di nessuno, perché se viviamo sulla terra... Sì, ma non ho capito. Allora, Feltri è un razzista, non ho capito. No, allora, cioè, io ho sentito questo argomento di qui. Il giornale ha nominato che vuole mandare fuori i musulmani dall'Italia, in poche parole. Ovviamente oltre che razzismo... Ma non è che ha detto mandare via i musulmani dall'Italia, ha detto fuori dai coglioni, liberiamoci di questa gente che viene qui ed è incompatibile con i nostri valori, dai, dice quelli che sono incompatibili e manifestano incompatibilità con i nostri valori vanno cacciati, non è che tutti i musulmani italiani vanno cacciati, chiaramente non voleva dire quello, dai ragazzi, su non scherziamo, dai. Poteva nominare la gente di cui già possono essere criminali o certe azioni, non si può fare generalizzazione sull'argomento. Vabbè. Io posso dire tutta la gente è una cosa, però posso dire i criminali. Ragazzi, ma è un giornale, non è l'Evangelo, la verità, è l'opinione di un giornale. Cosa vuol dire? Ma ragazzi, ma volete distruggere la libertà che c'è? Cioè, anche di esprimersi in un certo modo. I titoli sono i titoli, le opinioni sono le opinioni. Se qualcuno si sente offeso, portasse Feltri in tribunale. Andrea, provincia di Siracusa, dai. Andrea, pronto? Dimmi. Ora, io volevo fare una domanda a Parenzo. Sì, Parenzo intanto sta al cesso un attimo. È andato un attimo al cesso. Che devo fare? Non è una cattiva idea. Allora, ogni tanto dice, posso andare al cesso un secondo prima di iniziare la trasmissione sulla 7? Adesso torna, fra poco torna. Vabbè, lasciamocelo allora al cesso. Allora, lo chiedo anche a te. Lasciamocelo, adesso tornerà al cesso, no? E chi lo sa, comunque dipende. Non... Allora, volevo chiederti questo. Mia moglie è straniera, è mulatta, quindi mi si può dire tutto tranne che sono razzista. Ma mia moglie mi ha chiesto: Andrea, ma tutti sti musulmani che vengono qua in Italia, ma che vuoi, ma perché non se ne vanno a Dubai? Che vuol dire perché non se ne vanno a Dubai? Non ho capito. E lì hanno, là hanno i soldi, sono musulmani, come, cioè perché non li accolgono quelli di Dubai invece di farsi il canale? Cioè, perché vengono qua e non se ne vanno dagli arabi ricchi? Cioè, perché dobbiamo essere noi a mantenerli? Cioè, tu dici è meglio portarli in massa negli Emirati Arabi. Ma perché? Ma forse non hai capito che là non è che si può bighellonare, cioè non è che si può stare senza fare un cazzo. Da noi invece sì. Cioè, beh, sì, io, diciamo, da noi io si arriva. Cioè, in quei paesi lì non si può nemmeno entrare, nemmeno lontanamente. Cioè, entrano. Ma sono musulmani, sono loro fratelli musulmani. Ma non esiste questa cosa dei fratelli musulmani. Ma perché c'è? Cioè, io dico, sono i loro fratelli, perché non si aiutano tra di loro? Io tra loro fratelli musulmani. Invece di venire qui, cioè, io ne faccio un problema di razzismo culturale, non è un fatto di colore della pelle, ma un fatto di incompatibilità culturale. Cioè, se il loro Dio li manda in paradiso, se si fanno esplodere prima una strage di gente che non la pensa come loro. Non tutti la pensano così, altrimenti ma qua si indignano per il titolo del giornale di Feltri e non sento nessun musulmano che dice fuori dai coglioni a questi musulmani che uccidono altre persone. Cioè, avessi sentito un musulmano indignarsi per quello che i loro fratelli musulmani fanno ogni giorno. Beh, no, sì, no, c'è gente sentito... No. Cioè, io vorrei vedere il titolo di un giornale musulmano che dice fuori dai coglioni a questi che non sono fuori musulmani. Fuori dai coglioni quelli che non sono musulmani. E certo. Se non sono tutti no, a Dubai, fuori dai coglioni. No, ma ho capito, tu dici miliardi a milioni di qualsiasi cosa e si facessero campare da loro. Ma non lo fanno perché in quei paesi là non vogliono rottura di coglioni, non hai capito ancora? Non vogliono rottura di cazzo, vogliono tutto ordinato, non è che vogliono gente che poi perde, cioè se tu perdi il lavoro lì non puoi fare più un cazzo. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora, ragazzi, è tornato Parenzo, Allora, qualche giorno fa ho ricevuto un articolo, era 17 dicembre, sì, ecco. Un articolo, detto, guarda questa storia qua, secolo XIX di Genova, raid xenofobo allo stadio, blitz solitario di Corrado Brin contro i profughi del Faggio. È una storia molto locale. Corrado Brin, figlio di un farmacista, storico presidente della Cairese, siamo a Cairo Montenotte, ok? Allora, questo Brin pare che si sia presentato come una furia allo stadio e abbia devastato tutto per un semplice motivo, perché giocavano degli immigrati. Cioè, perché giocava una squadra di un'associazione, eccetera, eccetera, di profughi. Allora, siccome il personaggio me l'hanno descritto come un personaggio particolare, caro David, io farei una telefonatina a questo signore, il quale si lamenta spesso Facebook, mi chiude il mio profilo, eccetera, eccetera. Perché devasti uno stadio solamente perché dentro ci sono dei profughi o perché c'è una squadra di neri, di immigrati? Corrado Brin. Chiamiamolo, vai. Feel the magic. There's something that drives me wild. Pronto? Sto parlando con Corrado Brin. Sì? Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, Radio 24, salve. Buongiorno. Scusi, signor Brin, ma perché lei ha distrutto tutto lo spogliatoio dello stadio lì in quel paese, a Cairo? Mi può spiegare? Ma come mai? L'ha devastato questo spogliatoio, perché? Perché giocavano i neri? In parte, no, cioè non è il fatto perché sono neri, ma per come vengono trattati i clandestini, perché sono tutti clandestini, quindi... di rifugiati. Ma se giocano a pallone, sicuro, quelli là sono clandestini, quelli là. Allora, tutti quelli che sono qui in Italia, a parte il 5% che arrivano da sono clandestini. Per cui lei che ha fatto? Siccome quelli là che giocano a pallone, la maggior parte sono clandestini, è entrato dentro lo spogliatoio e che ha fatto? Allora, prima di tutto sono clandestini qui in Italia, e qui a Cairo, li hanno già vivono in un appartamento, in un palazzo settecentesco e cos'altro. Vengono trattati come dei pascià, a differenza magari degli italiani. Qui abbiamo, a fine alle Ligure, pochi chilometri da noi, immobili comunali del comune, sfittati agli italiani per metterci clandestini. Una bambina di 14 anni italiana è svenuta perché i suoi genitori non lavorano, era due giorni che non mangiava. Scusami, con le scarpe da calcio da 200 euro, cos'altro a rompere i coglioni nel campo sportivo, in più intestato a mio padre. Però scusa, io sono arrivato lì, ho litigato con l'assessore, lì con l'assessore un certo cagnone, un parassita di merda. Chi se ne frega poi? Un parassita di merda, chi l'assessore? Ho litigato con questo qui, poi sono entrato dentro, ho parlato con un amico che è un allenatore, ma cioè, ero abbastanza nervoso. E che hai fatto? Ho demolito tutto. Hai demolito tutto? Ho demolito tutto, con orgogliosamente ho demolito tutto, e questa mattina sono andato con la vernice spray davanti allo stadio e ho scritto: la politica dell'integrazione, no, dell'accoglienza provoca le stragi come a Berlino da una parte. Ma che c'entra? Vabbè. Ma lei la vergogna non sa che cosa sia, mi pare di capire, no? Cioè, voglio dire, la vergogna lei non sa che cosa sia. La vergogna, cioè vergognarsi per una cosa oscena che io ha fatto. Io sono orgoglioso di averla fatto. Se vuoi fare un'intervista, bene, se no non ho tempo da perdere. Aspetta, aspettami, Corrado. O i carabinieri a portarla via, o un gruppo di medici con dei sedativi. Aspettami, Corrado, scusami un attimo. Allora, io non ho capito una cosa. Allora, tu non sopporti il fatto che ci siano questa squadra di neri che gioca a pallone. In realtà, io non sopporto che ci siano, che sia l'Italia piena di clandestini. Sì, ma tu non so, secondo me non sopporti i negri, questo è il punto. Ma che cazzo, ho avuto una fidanzata, questa qui è una gran stronzata. Una grande stronzata, tu non sopporti i clandestini, allora? Non sopporti, e allora devono andare fuori dall'Italia. Ma che c'entra distruggere lo spogliatoio, scusami? Lo spogliatoio, ho sfogato la mia rabbia in questo modo. Vabbè, ma sarai denunciato, no? Ma che cazzo mi frega a me? Ma non me ne fotte proprio assolutamente niente, sono orgoglioso, anzi. Cioè, a parte che per questo non ci sono gli estremi per fare della galera, ma se facessi della galera sarei ancora più orgoglioso. Che faresti dei Rom, per esempio? Signori Rom? Ma io qui problemi Rom dalle nostre parti sinceramente non ci sono. Ma ti piacciono i Rom? Non credo. Mi infastidiscono molto di più i clandestini, tenendo conto, ripeto, che ci sono italiani che non arrivano con delle pensioni minime, che sono ridicole, della gente che non arriva. Vabbè, ho capito, ma questo, scusami un attimo, ma tu la pensi così? Ma che c'entra entrare dentro un posto e sfasciare tutto? Perché gioca una squadra di neri, perché quelli possono giocare a pallone, che c'avevano? E poi le scarpe da 200 euro, ma quale scarpe da 200 euro? Sì, avevano tutte Nike e Adidas e cos'altro, scarpe che sono da 200 euro, ho giocato a calcio una vita, scarpe da professionisti con tanto di allenatore. L'allenatore, certo, per giocare a pallone. Dobbiamo prendere per il culo dalle cooperative, perché questo è un business per le cooperative, è voluto da questa Europa di merda, da questo patto giudaico-massonico. Ma che c'entra il patto giudaico-massonico? Per farci invadere dei clandestini per abbassare il costo del lavoro a 3 euro all'ora, schiavizzare sia loro che gli italiani. Scusami, Corrado, ma tu sei anche un po' fascista? Assolutamente sì, sono sempre stato fascista, lo sono e lo rimango. Cioè Mussolini Io la fotografia del Duce in camera tua, scusa? La foto del Duce in camera mia. Ma anche Hitler ha fatto delle cose buone. Beh, insomma, non si può fare un paragone, comunque. In che senso? Vabbè. Ha fatto delle cose buone anche il signor Hitler, magari? Che ne so, domando, ha fatto ciò che i tedeschi volevano che lui facesse in quel momento. Cose buone, dunque. Il popolo tedesco lo ha voluto, lo ha votato. Dunque ha fatto delle cose buone Hitler, secondo te? Che ne so, l'olocausto, queste cose qua, ha fatto delle cose corrette, buone, che ne so? Ma sicuramente Mussolini non doveva fare il patto con Hitler. Hitler ti è piaciuto in qualche cosa oppure no, il signor Hitler? Non proprio. E Mussolini invece un grande statista. Esatto, il più grande statista che ha avuto l'Italia. Uno come Franco, per esempio, non è sceso in guerra e non è successo quel che è successo. Per cui bisogna comunque, se ci fosse un nuovo Mussolini in Italia, saremmo tutti... L'Italia agli italiani, se ci fosse un grande... Ma io voto Salvini aspettando il nuovo Mussolini. Questo è buono. Questo fuori dubbio. Voto Salvini in attesa del nuovo Mussolini. Sì, bene. Parenzo, a te la parola. Dopo tutto questo che abbiamo sentito... Sì, parla più forte, scusami, parla più forte, Davide. Tutto questo che abbiamo sentito, per cortesia coordinate di questo signore immediatamente la denuncia ex legge Mancino, e per cortesia portatelo via, come minimo arrestatelo, perché un elogio così puntuale del fascismo in una diretta radiofonica non si era mai sentito, quindi andate a prenderlo e cacciatelo dall'Italia, pedate nel sedere. Adesso uno non può esprimere le sue idee, adesso lasciamo perdere. Mi fate ridere, ok? Beh, ho capito, ma chi è questo qui? Chi è questo qui che parla? Ma lei ha parlato di complotto giudaico-massonico, scusami, complotto giudaico-massonico hai detto, Corrado? Esatto. Ma quale ma di che stai parlando? Di quale complotto? Di questa cazzo di Europa di merda, di questa Europa di... ci sta rendendo schiavi sia noi che ai clandestini che arrivano in Italia. Parenzo? Okay? No, io dico fermatelo, ma fermatelo subito, voglio gli estremi di questa Parenzo, persona. Parenzo, vai a prendere nel culo, figlio di puttana. Ma cosa c'entra? Per denunciarmi. Parenzo, figlio di puttana. Ma che cos'è sta roba? Ma sei impazzito? Di merda, comunista del cazzo, hai capito? Ma sei impazzito, sei. Tribunale. Ma sei pazzo, ma sei. Io del tuo tribunale mi ci sciacquo i coglioni e poi ti faccio bere l'acqua con i quali mi ci sciacquo. Ma Corrado, sei impazzito. Mi sciacquo i coglioni. Ma perché? Ma che? Bene. Ma che è un attimo, con i soldi della querela io costruirò nuovo lo stadio dove giocano i migranti. Sai cosa ti dico? Che nello stadio qui a Cairo non deve essere un bivacco per le faccette nere dei clandestini. Lei è un bivacco umano. Per le faccette nere dei clandestini. Corrado, il campo di Cairo non è un bivacco per le faccette nere dei clandestini. Lei è un bivacco umano. Lei è un bivacco. Hai capito? Umano. E tu sei un comunista di merda. Ma cosa c'entra? Corrado! Un pedofilo. Tu sei un pedofilo. Che c'entra? Ma che c'entra pedofilo? Scusa. Che c'entra pedofilo? A quattro occhi ti gonfio, ti faccio una faccia talmente gonfia. Ma sei impazzito? Sacco di merda, figlio di puttane. Ma perché? Ma sei impazzito? No, lascialo andare avanti, che così mi diverto. Sacco di merda, divertiti. Giovinezza, primavera di bellezza, con la gioia, con la speranza, questo canto squillava. Hai capito? Ci vediamo in tribunale presto. Comunque, in tribunale mi ci sciacco i coglioni. Questa roba qui è più d'ambulanza che altro, Brin. Tu sei più d'ambulanza che d'altro, Brin. Stupido. Tu odi i neri. La realtà è che tu odi i neri. Sacco di merda. Tu odi i neri. Sacco di merda, ma io odio i coglioni come te, stupido. Ma io che c'entro, stupido, scusa, non ho capito. I coglioni come te, imbecille. Ma tu sei fuori di testa. Ma tu sei fuori di testa. Buonista del cazzo, la tua politica. Comunisce le stragi come Berlino, figlio di puttana. Ma che c'entrano le stragi? Perché non manco si sa chi è stato. Non sai nulla. Ma morissi veramente, coglione. Sei finito. Fai tutte le tue denunce, Radio 24, fai parte dei poteri forti, i giornali di Sole 24 Ore, Banca dell'Alta Finanza, figlio di puttana, sacco di merda. Il 4 dicembre un messaggio chiaro e ti veniamo a prendere anche tu. Ma chi viene a prendere? Chi viene a prendere? I servi del potere come te che si fanno. Ma questo sacco di merda. Oggi hai scritto la tua condanna, sacco di merda, sacco di merda, sacco di merda, sacco di merda. Vabbè, questo è pazzo, questo è pazzo. Corrado, fermi tutti, Corrado, tu non sei uno, sei zitto che non sei una persona stabile, non sei stabile. Sacco di merda, uno schiavo del potere sei. Ma con chi stai parlando? Con chi stai parlando? Con chi? Con tutti e due. Ma sei un poveraccio, i due stronzi patentati. Ma fatti ricoverare. Dai, ma su. Vai a cagare, ma vai, fatti gli acidi che te li sei sempre fatti, coglione, sei uno da acidi questo. Tu Corrado, fatti ricoverare, va, culo. Vai. Adesso da fare non ho più tempo da perdere con vai te, a ricoverarti. Culo, vai a ricoverarti, vai, cioè. Ragazzi, c'ho un mal di testa, non ce la faccio dopo sta roba, non ce la faccio. A domani! Viva l'Italia! Cruciani, ma va cuca! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.